Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Signori miei, bentornati, benvenuti a Voice Anatomy, Radio 24, sono le 14:33 primi e 49 secondi. Anche oggi cominciamo una puntata nuova sulla voce, sulla declinazione della voce in tutti i suoi meandri più nascosti. E come sempre, avremo ospiti oggi variopinti, veramente, perché andremo da grandissimi musicisti come Claudio Simonetti, grande regista come Stefano Reali e un grande ex, forse ex youtuber come Claudio Di Biagio. Ma oggi, come sempre, cominciamo ricordando quali voci ci hanno accompagnato in una giornata come questa. Chi ha avuto i Natali il 5 marzo di qualche anno fa? Ecco, il primo è un grandissimo cantante. È nato a Poggio Bustone, a Rieti, provincia di Rieti, il 5 marzo del 1943. E adesso ditemi chi non ha mai rimorchiato o suonato questa canzone sulla spiaggia. Le trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. E la cantina buia dove noi respiravamo piano. Lo so, non bisognerebbe mai toglierla, la canzone del sole. Ci siamo cresciuti, almeno c'ero quando è uscita questa canzone, purtroppo, ma poi generazioni e generazioni l'hanno accompagnata con questo giro di do, che è forse il più famoso giro di do del mondo. E Battisti, è inutile parlare di lui e raccontare quante cose insieme al grande Mogol ci hanno raccontato e ancora ci raccontano. Ecco, questa essere una grande voce, magari inversamente proporzionale alla potenza della voce. Ogni tanto mi viene da pensare, se uno come Lucio Battisti avesse partecipato oggi a un talent e mi viene da sorridere, che magari qualcuno poteva dire: ma c'ha poca voce, un po' calante, grazie per te, finisce qui. E invece, ringraziando il cielo, ancora non era questo il periodo storico e Lucio Battisti ancora riecheggia nel cuore di tutti noi. Ma oggi è un'altra giornata molto importante, perché a Bologna, il 5 marzo del 1922, nasceva un grandissimo uomo. Una frase che lui ha detto di una poesia: io, ritardatario sulla morte, in anticipo sulla vita vera, bevo l'incubo della luce come un vino smagliante. Bellissimo. Lui era, è e sarà per sempre Pierpaolo Pasolini. Non voglio parlarne io, non posso parlarne soltanto io, magari potrei leggere soltanto, ecco, una delle poesie, un momento della vita artistica del grande Pasolini, ma al telefono ho la fortuna di condividere questo momento con un grandissimo, un uomo che ha accompagnato, un attore che ha accompagnato, forse l'attore feticcio di Pierpaolo Pasolini, che l'ha accompagnato per tutta la vita, e lui è Ninetto Dauli. Pronto, Ninetto? Ciao Pino! Eccolo! Ciao! L'entusiasmo di quest'uomo che è sempre un bambino! Beh, guarda Pino, guarda, tu perché me l'hai ricordato, ma ti dico onestamente, io non cerco sempre di sorvolare i ricordi, perché proprio oggi il compleanno di Pierpaolo. Quanti ne hai vissuti? È un'emozione guarda che è strepitosa. Io ti dico, tu me l'hai ricordato e non ne posso far meno. Non devi, non possiamo nessuno farne a meno, dobbiamo tramandarle certe cose, raccontarle. Pierpaolo è stata uomini come Pierpaolo, veramente, come dice, ne nascono uno ogni 100 anni, come diceva Moravia, diciamo, il giorno dei funerali. Ed è così, perché insomma Pasolini è stato un grande, un genio, è stato uno, diciamo, che ha avuto una visione della vita come nessun altro al mondo abbia detto quello che ha detto Pierpaolo. Insomma, con grande coraggio, in periodi poi non sospetti, difficili. Ma Pierpaolo era un coraggioso, Pino, è un grande coraggioso, quello che, ti ripeto, tanti politici allora e intellettuali come lui non riuscivano a fare per paura, per diciamo, per non essere coinvolti. invece Pierpaolo era un muro, aveva proprio i paraocchi, andava avanti per le sue idee e nessuno lo fermava. E ricordarlo a me mi emoziona prima, davvero. Ma lo ricordiamo in maniera poi anche un po' goliardica, nel senso buono del termine, nel senso che tu poi con Pierpaolo Pasolini hai fondato quella che è rimasta la nazionale calcio attori. Ecco, forse questa è una cosa che la gente non sa, sanno tutto, le scritture, le poesie, i romanzi, i film, eccetera. Ma Pierpaolo, dimmi. Scusami, io con Pierpaolo ho fatto 9 film. No? Sì, no, ma infatti ne avrei parlato anche di quello dopo. Rimani con me, tu un quarto d'ora, mezz'ora rimani con me. Aninetto, che pensi? Che pensi? E te ne vai così? Io te parlo faccia a faccia perché sei uno de core, uno vero, per cui te parlo pure in romano, nonostante questa radio importantissima vada in tutta Italia. Però io te do una capocciata se non rimani con me almeno 20 minuti. E tu lo sai che sulla fascia abbiamo rischiato spesso e volentieri di menacce. E allora poi la pensiamo diversamente, non sulle, ma su, pure sul, ma siamo, calcio, no? Appino, siamo due bambini, io e te, sì. Gli unici che capivano come prendere quelle partite eravamo io e te, gli altri tutti, no, io non esco perché so famoso, io rimango. Quando l'avete fondata la nazionale calciatori? Pierpaolo, c'è bisogno di ricordare che anche Pierpaolo è stato quello che diciamo il promotore, diciamo, di questa squadra che tuttora ancora vanno in giro a far partire. Noi questa squadra qui fino l'abbiamo creata 50 anni fa. Però il motivo era molto bello, tu me l'hai detto un giorno negli spogliatoi, io ho detto come mai avete fondato, sì, parte la gioia di poter dare in beneficenza eccetera, e tu mi dissi che Pierpaolo Pasolini l'ha detto, dice è giusto che la gente, visto che ci dà tanto, ci deve vedere in mutande in mezzo al campo. Cioè, è così, dobbiamo è così. Prenderci in giro per primi. Ed è così, sì, è così. E per cui è nata questa bellissima avventura. Insomma, mi dicevi 9 film con Pierpaolo Pasolini. Sì, l'ho fatto 9 quasi tutti. Con Pierpaolo. Cioè, io ho iniziato inizialmente, cioè nel 64, quello tanto con una piccola partecipazione nel Vangelo secondo San Matteo. Mm-hmm. E poi nel 65 iniziai con quel grande film. Cioè, che ma di che anno? Scusa un attimo, Ninè, per capire. Ma tu sei Highlander, quanti anni avevi quando hai cominciato? Guarda, io ho iniziato a fare Uccellacci Uccellini, che è il primo vero film, insomma, dopo il Vangelo, con Totò, e avevo 16 anni e mezzo. Tu Uccellacci Uccellini avevi 16 anani e mezzo? 16 anni e mezzo. Ho capito, io ti ho incontrato l'altra sera, a parte i capelli bianchi che non se ne può far meno. Però sei uguale, cioè, ma uguale, l'entusiasmo è lo stesso, ma pure sì, il fisico. Sì. Cioè, ti sei mantenuto alla grande. Ma che così, che con Pierpaolo è questo qui, Avino, che noi quando giravamo ci divertivamo. A parte l'opera. Che atmosfera c'era, ecco, sul set? Com'era Pierpaolo? Com'era Pierpaolo Pasolini sul set, come regista, come amico? Che cos'era? Ma se è una persona più semplice di lui non esisteva, ma veramente semplice. Ma infatti Pierpaolo è stato anche allora criticato perché comunque nei suoi film lui prendeva degli attori non attori, attori presi per la strada, ed è stato sempre criticato perché per esempio sul Decamerone, quelle facce vere del Decamerone, mm-hmm, che magari ti capitava il personaggio preso per la strada da noi, scelto da noi per la strada, magari mancava un dente perché era giù, e la gente criticava perché figura dell'attore doveva essere diversa. E Pierpaolo no, ma Pierpaolo difendeva proprio su questo tipo, questo genere, diciamo, di personaggi, e amava questi personaggi, e amando questi personaggi non se ne può far meno fino a non amare, essere semplice con queste persone, come a Cattone con Citti, no? Il grande Citti con Franco, con me, voglio dire, non mi ricordo, ho fatto l'Accademia, Franco mi ha fatto l'Accademia del CIA, ha fatto l'Accademia della Strada, quella vera, insomma. Siamo stati attori presi per la strada, e poi chiaramente uno poi piano piano facendo cose, diciamo, riesce a imparare, capito? Però siamo semplici, Pierpaolo erano semplici, mai che Pierpaolo abbia preso delle iniziative, non so, a sgridare qualche attore perché magari non faceva bene una cosa, no, sempre con calma, con una tremma molto gentile. Oh, Pierpaolo l'ha anche scritto su delle poesie, che non riusciva a dare del tuo neanche un cane, per dire, no? Ma dai, questo non... davvero, cioè, ti chiamava signor Davoli, ti chiamava, no? No, per rispetto. Ma certo, certo. Ma tu pensi che su Uccellacci Uccellini con Totò, per esempio, mm-hmm, e anche con Tonino Vericoli, diciamo, grande operatore, direttore della fotografia, ha lavorato con lui, non sono mai riusciti, Pino, mi devi credere, mai riusciti a darsi del tu. Ma che bello, che strano. Senta Antonio De Curtis. Certo. Senta, Antonio, e Totò riguardi, senta maestro, senta Antonio, senta maestro. Certo, uno come te dovrebbe rimanere un'oretta, perché tu hai condiviso dei momenti importantissimi con delle persone che hanno lasciato un segno indelebile nella cinematografia e nella letteratura mondiale. Insomma, bene o male, tu sei uno dei l'unico forse ancora portavoce di questi momenti. E il principe De Curtis com'era? Come si è comportato con te, che eri alle prime armi? Ma lui era un attore, diciamo, ha sempre fatto dei film, diciamo film così, che allora chiamavano film di, diciamo, di diversa categoria, voglio dire, Totò ha sempre fatto, le faceva 5-6 l'anno, voglio dire, no? E poi dopo hanno scoperto l'acqua calda dicendo che era un grande, no? Ma lui già aveva in mente di fare un film serio, e devo dire che i primi giorni con Pierpaolo non è che si trova tanto per la quale, perché... E purtroppo doveva attenersi alla sceneggiatura, e lui, essendo avendo sempre lavorato un po' sempre a getto, gli veniva un po' complicato, però devo dire che ha sempre rispettato tutto, insomma, è stato sempre carino, semplice, molto semplice. Una persona, è uno che veniva dei ghetti napoletani, voglio dire, perché anche lui veniva dalla strada, da quella vera, sì, insomma. Ma lui il principato lo sa, insomma, il principe sì, però ha acquisito, perché comunque lui sì, è stato figlio di un principe, però c'è una storia sotto, insomma, se tu non so, però vuol dire, non era principe, diciamo, di... No, certo, di casta vera. Senti, Ninetto, rimani un minuto, guarda, c'è un minuto di pubblicità, un minuto soltanto e siamo altri 5 minuti insieme. Ti posso rubare in altri 5 minuti, Ninetto? Va bene. Resta lì. No, se no te venga a menà, lo sai, non me fa così. A tra pochissimo, poi Sanatomi e Ninetto Davoli, il ricordo di Pierpaolo Pasolini, a tra poco. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati, come promesso siamo stati rapidissimi, Radio 24 Voice Anatomy al telefono con il grandissimo Ninetto Davoli per ricordare Pierpaolo Pasolini, che proprio quanti anni fa? Nel 1922, per cui sono 78, Ninetto. No, in pratica sono 95. 94, 95 anni. Avrebbe avuto 95 anni. 95. Ah, che miseria. E però, insomma, tu hai condiviso veramente tanto. Come vi siete incontrati per la strada? Come è successo? Uno sguardo? No, Pino, è stato un incontro casuale, proprio un incontro casuale, e io proprio per caso anch'io ho fatto l'attore, perché prima non avevo fatto mai niente. Che zona stavi, Ninetto? Dove ti spiego un giorno con i miei amici siamo andati a fare la passeggiata, non so se tu conosci l'acqua santa. No, dov'è l'acqua santa? L'acqua santa sta praticamente nella traversa di via Appia. Dove i romani vanno lì a prendere l'acqua ancora è buona, ancora è buona. Sono andato lì come andavano, perché si andava lì la domenica, andava lì a fare, che ne so, picnic, fare il bagno. Io un giorno sono andato con i miei amici a questo posto così curioso, e però lì vicino c'era una specie di montagnola dove abbiamo visto un sacco di gente. Dico, ma che sarà successo qualcosa? Curiosi, con i miei amici, siamo andati lì a vedere, e c'era Pierpaolo che stava facendo la ricotta. Primi film di Pierpaolo Pasolini, devo dire che siamo rimasti tutti curiosi, perché mai visto, mai il cinema, capirai, il cinema, che ci stavano quasi a caccia via. Non ho dubbi, Ninetto. Sì, ci stavano a caccia via. Eppure, guarda caso, lì su quel set lavorava mio fratello come attrezzista, falegname, no? Che mi ha visto e mi ha pure sgridato. Dice, oh, che sta a fare qua? Dico, ma sei nato a lavorare? Dico, ma veramente, ci vieni qua, via qua, e ti presento il regista. L'ha portato da Pierpaolo, che io non sapevo chiaramente chi era. Certo. Non lo sapevo, 16 anni. Ma eri giovane, dai. Ma che cazzo? Esatto. Dice, ciao Pierpaolo, questo è mio fratello Ninetto. Ninetto, questo è Pasolini. Pierpaolo mi guardò, mi fece una carezza in testa, c'era una massa di capelli. Ce l'hai tuttora. E mi ha fatto una carezza in testa, io lo so guardato così, sorridente, un po' intimidito, e basta, è finito lì. Poi dopo un po' dei mesi mi chiamò appunto se volevo fare una piccola parte del Vangelo nel 64 e dico ma no, dai, lascia perdere, non è per me, lascia perdere, non è per me, cioè, che è sto figlio, ma non per me, era da tu, era vino, certo. Insomma, mi ha convinto e ho fatto questa piccolissima parte nel Vangelo che, ma io ma, dicevo, fatto tutto. Paolo, dico, ma devo parlare, devo dire qualcosa, non mi metto di ricordare, dice no no, guarda, non devi dire niente, vabbè. Insomma, hanno convinto e l'ho fatto. E da lì è storia. Ma però la adesso, cosa strana, bambino, la cosa strana è stato Uccellacci Uccellini. Ma lì è un film indimenticabile. Lo fa, dico, allora no, non lo faccio. No, non lo fa, no, no. Non volevi fare. Non lo volevo fare, no, perché mi vergognavo, non mi ricordavo, lì dovevo fare battute, cose, ma che cazzo. Però comunque io abitavo a Borgata, dove la fame veramente, detto proprio internosso. Ci si parlava con la fame. Era tanta. E devo dire che insomma che Pierpaolo insistette tanto e poi alla fine mi fa dire guarda, hai detto che ti pagano, ma dico come pagano e che mi danno, non so che cioè, ma non so, danno un milione, dico che mi danno, che mi danno, hai ballato il tip tap pure, dico capire, ce mandiamo per 3 anni, ce mandiamo a casa mia. Ninetto, io però non voglio che dici altro. Ma lì è stato un po'. Tu vieni qui in diretta, vieni qui quando puoi, una domenica, adesso non sarà la prossima perché so che hai da fare, però sì. Una delle prossime domeniche tu sei qui per parlare della tua storia, della tua vita, perché poi la tua vita è andata avanti artisticamente con il teatro in tutto il mondo, anche perché tu sei conosciuto in tutto il mondo perché il grande maestro ha girato il mondo. Grazie a Pierpaolo comunque, vino. E in America ti salutano, io lo so, siamo stati insieme, in America il pubblico ti riconosce, i grandi registi ti osannano, capito? Uno è sempre profeta fuori patria, mai in patria. È vero, è così, è vero, lo so. Ogni tanto vado a New York perché fanno delle manifestazioni, certo. A Pierpaolo, e devo dire che quando i palchi così... Tu poi parli. Ma che so, Cacini? Cacini è un noto personaggio romano. Quando dici che mi pari Cacini, è una cosa. Ma tu non gli parli inglese, vero? Quello non l'hai mai imparato, Ninè? Non sia mai. Che te frega a sto punto di fatica? Però potevi fare qualche film in America così, capito? L'italo-americano. Va bene, Nino, ti abbraccio forte, ci sentiamo tanto noi per averti fisicamente qui. Sì, dai, mo ci mettiamo da quel momento che sto lavorando, sai che sto lavorando. Vai tranquillo, ti voglio un mondo di bene, lo sai. È un in bocca al lupo. Tanto, enorme, a te e alla tua famiglia, Ninetto, ti voglio ancora tantissimo bene, grazie. Ciao Nino. Nino, grazie. A te, amico mio, a te. Ecco, è vero, io ho avuto la fortuna di... condividere questa amicizia con Ninetto Dauli 34 anni fa, quando mi chiamarono per giocare a pallone nella nazionale calciatori, perché all'epoca ero un calciatore prestato a questa professione. E da quel momento ho capito che ci sono dei grandi che rimangono piccoli, ma non piccoli negativi, piccoli con la P maiuscola, sensibili. Ma non ho parole per raccontarvi la bellezza di questo uomo, Ninetto Dauli, ormai gira intorno ai 70 anni, ma dovreste incontrarlo. Non so quanto tempo abbiamo ancora per il blocco, perché volevo leggere una poesia di Pierpaolo Pasolini. Eccola qui, speriamo bene, anche perché è la prima volta questa che la leggo. Saluto dall'altra parte del vetro gli autori, Alessia Navarro e Mauro Meconi. Valerio è tornato, signori! La Roma ha giocato ieri, non è un momento fortunatissimo, però è tornato dopo varie operazioni, l'ultima dei quali l'ha fatto tornare un essere vivente, normale, questione di legamenti, niente di grave, per carità. Rachele è la nostra caporedattrice e poi abbiamo ospiti qui in studio, una web radio piccola ma che crescerà e allora sta facendo un backstage e va bene così. Allora, questa è una poesia di Pierpaolo Pasolini, ve l'ho detto, si intitola Verso le terme di Caracalla. Proviamo a raccontarvela, dai. Vanno verso le terme di Caracalla giovani amici a cavalcioni di rumi o ducati, con maschile pudore e maschile impudicizia. Nelle pieghe calde dei calzoni nascondono indifferenti o scoprendo il segreto delle loro erezioni. Con la testa ondulata, il giovanile colore dei maglioni, e si fendono la notte. In un corasello sconclusionato invadono la notte. Splendidi padroni della notte. Va verso le terme di Caracalla eretto il busto come sulle natie chine appenniniche, fra tratturi che sanno di bestia secolare e pie ceneri di berberi paesi, già impuro sotto il gaglioffo basco impolverato e le mani in saccoccia il pastore migrato undicenne, e ora qui, malandrino e giulivo nel romano riso caldo, ancora di salvia rossa, di fico e d'ulivo. Va verso le terme di Caracalla il vecchio padre di famiglia disoccupato, che il feroce Frascati ha ridotto a una bestia cretina, a un beato, con nello chassis i ferri vecchi del suo corpo scassato a pezzi, rantolanti i panni, un sacco che contiene una schiena un po' gobba, due cose certo piene di croste, i calzonacci che gli svolazzano sotto le saccocce della giacca appese di lordi cartocci, la faccia ride sotto le ganasce, gli ossi masticano parole scrocchiando, parla da solo, poi si ferma e arrotola il vecchio mozzicone, carcassa dove tutta la giovinezza resta, in fiore, come un focaraccio dentro una cofana o un catino. Non muore chi non è mai nato. E questa era una delle tante bellissime storie che Pierpaolo Pasolini ci ha raccontato, e non vedo l'ora di avere qui la voce che potrebbe rappresentarlo come racconto e come vita del grandissimo Pierpaolo Pasolini. Un uomo veramente a 360 gradi, non si discute la profondità, non si discute il colore, la politica, le cose, no, ma l'uomo che ci ha raccontato tanto e che ha avuto il coraggio in momenti non sospetti di approfondire la vita in maniera diversa dagli altri, almeno affrontarla in maniera diversa e anche purtroppo terminata in maniera diversa. Va bene, e allora oggi veramente è giornata importante, il 5 marzo Lucio Battisti, il 5 marzo Pierpaolo Pasolini e magari tanti altri, però noi ci siamo soffermati su questi due grandissimi. Bene, allora torniamo in noi, torniamo con la brillantezza che ci contraddistingue ormai da due stagioni con Voice Anatomy. Passo la linea alla regia, immagino mi fa dei cenni Valerio che sono inconfutabili, si sta strozzando, per cui vuol dire che o si toglie di mezzo definitivamente oppure c'è la pubblicità che incombe, e allora diamo la parola alla regia, salutando anche Milano per la messa in onda. Buon lavoro ragazzi. Sanatomi. Eccoci, 15 in punto, è cominciato anche il campionato di calcio in questo momento, ma tanto chi segue il campionato non segue qua, chi segue qua non segue il campionato, oppure mette un orecchio su una radio e un occhio alla televisione, ma mai lo sappiamo, sono due anni che vi accompagniamo la domenica, arrivano tantissimi messaggi di ringraziamento, di saluto al grande maestro, a Battisti, e sentir parlare del principe d'oro del maestro Pasolini fa venire i brividi, dice Jay da San Benedetto del Tronto. Bene, la musica di Satie, sì, quella che ho utilizzato come sottofondo era Gymnopédie. Adesso non me ne voglia qualcuno francese, ma io credo parlo meglio il francese che l'inglese. Scusate, mi dicono dall'altra parte della regia. Trois. Gymnopédie trois. Va bene, comunque Satie. Ma adesso Valerio mi parla anche in francese. Vabbè, lasciamo stare. Senti, però io ho trovato una cosa durante, sta arrivando Claudio Di Biagio, anche Simonetti e Stefano Reali, però nel frattempo abbiamo trovato un'intervista dove Pierpaolo Pasolini parla della lingua italiana. È un'intervista ovviamente datata, per cui non è perfettamente in super HD, però visto che noi siamo Voice Anatomy, raccontiamo la voce, raccontiamo tutto ciò che riguarda il mondo della comunicazione vocale, e allora noi ce l'ascoltiamo perché è veramente molto interessante, Pierpaolo Pasolini che ci racconta un po' della nostra lingua italiana. Senta Pasolini, a lei vorremmo domandare come si è verificato questo fatto, che in un paese così diviso, così anche pieno di inimicizie municipali, abbia avuto una lingua molto presto, una lingua unitaria, l'italiano. Si è verificato nell'unico modo possibile, cioè attraverso la letteratura. L'italiano praticamente è una lingua soltanto letteraria per molti secoli, cioè fino praticamente a 10 o 20 anni fa. Mentre per esempio il francese si è formato come lingua unitaria per ragioni politiche, burocratiche, statali, l'italiano è diventato una lingua unitaria che comprende tutta l'Italia per ragioni puramente letterarie, ripeto. E questo prestigio letterario è nato a Firenze in una situazione storica naturalmente molto diversa dall'attuale. I tre grandi padri dell'italiano, cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, si sono imposti al resto della popolazione italiana per ragioni di prestigio letterario. Questo che significa? Che la maggior parte degli italiani fino a 15 o 20 anni fa non parlava quindi l'italiano in realtà? No, nemmeno ora si parla l'italiano, perché lei sente il mio italiano, non il suo. Cioè praticamente in questo momento abbiamo un italiano che è strettamente unitario dal punto di vista linguistico, cioè un giornale di Milano usa più o meno lo stesso italiano che un giornale di Palermo. No, quando gli italiani aprono bocca e parlano ognuno un italiano particolare, regionale, cittadino, individuale. Cioè una è la coinè dialettizzata, l'italiano dialettizzato. Ma vicino all'italiano poi ci sono anche i dialetti veri e propri. Certo che sono delle lingue potenziali che non sono arrivate al grado di lingua perché sono state soppiantate dal prestigio letterario del fiorentino. Senta Pasolini, ma nella lingua italiana ci sono un po', direi, le vestigia di questa vicenda italiana unitaria così burrascosa, così dura, così difficile? Beh, le vestigia effettivamente non sono poi molte, cioè ci sono moltissime parole nel lessico italiano che non sono di origine latina, sono di origine germanica, celtica, spagnola, addirittura araba, ma queste sono delle tracce assolutamente superficiali e poco significative. In realtà l'italiano linguisticamente è molto unito, è molto unitario, la sua derivazione dal latino è molto precisa, anche perché essendo appunto, ripeto, una lingua più letteraria che burocratica, comunicativa, eccetera, eccetera, tende a essere molto fissatrice delle proprie istituzioni linguistiche. Certo. Sento un'ultima domanda, vorrei rifarmi ad alcune polemiche recenti che ci sono state a questo proposito. L'italiano va cambiando? Sì, l'italiano va cambiando nel senso che si sta facendo più veramente unitario. Le ripeto, fino a 15-20 anni fa, 30 anni fa, non si poteva parlare di un italiano veramente unitario. Si può cominciare a parlare adesso, anche per merito della televisione, dei giornali, oppure della vita statale, che è infinitamente più unita che molti anni fa, le infrastrutture sono enormemente accresciute, ma il centro linguistico dell'italiano però si deve dire non è più letterario e non è più Firenze, ma è tecnico o tecnologico ed è Milano. Cioè per esempio l'italiano è unito secondo me soprattutto dal linguaggio tecnico, cioè mettiamo la parola frigorifero, è una lingua che tutti gli italiani adoperano, dalla massaia di Milano alla massaia di Palermo, tutte usano la parola frigorifero. Cioè le parole tecniche sono una specie di cemento, non so come dire, di patina che sta livellando e unificando tutto l'italiano. Bene, questo lei trova che sia migliore, diciamo, questa egemonia tecnologica o tecnocratica sulla lingua che non l'egemonia letteraria? Ma cosa vuole, non è né migliore né peggiore, questa è la realtà. Io tendenzialmente certo tendo ad amare di più alla guida di una lingua nazionale una lingua letteraria, ma se questa lingua invece che essere letteraria è tecnologica non posso far altro che prenderne atto. Eccoci di ritorno in diretta a Voice Anatomy, 15.06 e 6 secondi, mi ha raggiunto il primo ospite come vi avevo raccontato prima, qualcuno che ha tantissimo da raccontare, insomma è così, soprattutto con la voce e non solo, la tua voce all'orchestra. Carissimo Claudio Simonetti, ciao, benvenuto. Ciao Pino, grazie di avermi invitato. Grazie a te, secondo te sei ringiovanito, adesso questa è No, ma radio. In realtà è mio figlio. Ah, non sei tu. No, sai, ti racconto questo breve aneddoto molto carino. Una volta uno mi guardò e mi fa: ah, ma tu sei Simonetti? Ah, tuo padre, ma ce lo ricordiamo, era quello che aveva fatto Profondo Rosso. No! Tuo padre è il grande ero diventato mio nipote. Esatto, tu sei il figlio di tuo figlio. Il figlio di mio figlio, sì, no, sì. Ce l'abbiamo. Mio nonno era mio... A proposito di Enrico Simonetti, non si può parlare di te senza ricordare il tuo grande esatto. Papà, che avete preso poi due strade parallele, ma certo. Divergenti sì, in qualche sì, modo. Sì. Enrico Simonetti, grande uomo, grande ironia. Vero. Un attore musicista prestato anche alla recitazione. Non ho avuto modo di conoscerlo, non mai, sei troppo purtroppo. Giovane non lo so, però sì, era un pischello. Lui è scomparso nel 78, quindi. No, io cominciavo nel 79 con l'Allegra Brigata. Lo ricordo. Sì, e abbiamo certo. Sfiorato i grandi, l'abbiamo incontrati al GB Show, ma papà già ci aveva salutato. Esatto. Indimenticabile quello che ha fatto. E poi le colonne sonore anche di papà. Lui era più tranquillo, più romantico. Ecco, questo era Enrico Simonetti. Sentiamo Gamma un attimo. Un grande grande sceneggiato e già dalla musica ti rendevi conto che era fatto da gente, da attori che avevano tutti i contributi Empals al loro posto. Sentiamola. Cioè, ti mettevi davanti al televisore e già sapevi che stavi guardando un piccolo capolavoro. Cioè, partiva da qua. Quanti figli sono nati con sta musica poi? È vero. Nel senso che poi comunque queste erano musiche. Tu poi scivi anche all'epoca un po' di Fausto Papetti, queste cose. Sì, anche ma poi di questa canzone ho fatto versione solo pianoforte, sì, solo sì, sax. Io è l'unico pezzo di mio padre che suona sempre dal vivo nei miei concerti. Bellezza assoluta. Merita, la gente se lo ricorda. Ma sì, io l'ho usato anche in uno spettacolo ricordando sì. il passato. Beh, non puoi non certo, utilizzarlo quando fai racconti, che ne so, l'onore e il rispetto con gli attori di adesso, non voglio ricordare come si chiamano gli attori, non rispetto il peccato della vergogna, Garco, insomma, capisci, no? Greta Garco. Greta Garco è bellissimo, ti amo. Oddio, sì, Greta Garco. Che è la sorella poi. Esatto. E capito, questi erano momenti musicali che tu dicevi ok, domani vado a comprare 45 giri. Cioè. Che meraviglia. Ma allora non si sa perché c'era questa strana alchimia del fatto che la gente sentiva gli sceneggiati televisivi, Tenente Sheridan, la donna di Picchia, adesso non mi ricordo. Sì, sì. E comunque si usciva lungo il fiume sull'acqua e si compravano il 45. E c'era Story 9, sì, sì. O 100 campane. Esatto. Del segno del comando. Sì, sì, bellissimo. Cioè, fatti da persone Sandokan e tutti questi. Sì, qui, sì, di sì, Maurizio sì. De Angelis. Certo, c'era certo, la sigla, già da lì dovevi capire che cosa andavi a che vedere. Era una cosa bella. Adesso sì, canta me Squadra Antimafia 6. No, lo voglio sentire. È questo è quello che dico sempre, ormai i film sono così, entri e esci, non... nessuno oggi va a vedere un film e esce e dice ah bello, mi vado a comprare, neanche dice me la scarico. È successa invece quella sì. cosa straordinaria che si che fece a poi sai botte. Che Gamma è una storia molto particolare, un anno molto felice per la famiglia Simonetti, perché noi eravamo in classifica con Profondo Rosso, sai che noi abbiamo un record mai superato, 15 no. settimane al primo posto nelle Luttazzi e anche questa settimana, e quindi noi nessuno si è mai avvicinato per cui c'eri papà e solo figlio. Baglioni altre 13 settimane col piccolo grande amore, e quindi noi ci aspettavamo la 16ª settimana mm-hmm. e mio padre ci tolse il primo posto con no, Gamma con sì, papà. Meraviglioso sì, bellissimo sì, manca un po' di cenere sì, a casa con papà come no, ti sei no, permesso papà no. Ah, sono usciti in parallelo Profondo sì, Rosso, sì, erano lo stesso anno però esatto. Poi ecco, avete sentito la dolcezza di Enrico Simonetti in questa composizione, invece sentite il figlio con Profondo Rosso che ha combinato. L'apertura è in maggiore? Ecco. Senti questo basso, eccolo, eh. Beh, alza. Questo è proprio rock sinfonico, vero? Che poi l'organo da chiesa è molto particolare, perché dice come fa, mica c'erano i campionatori. No, quindi, si suonava davvero. Allora, è stato un caso, perché noi abbiamo registrato qui sotto la basilica di Piazza Euclide, dove c'è lo studio, ora si chiama Forum. Sì, la Forum. Allora era Ortofonic, esatto. E quando registravamo Profondo Rosso, avevo scoperto che sopra c'era l'organo da chiesa con 15.000 canne, e che era collegato con lo studio direttamente. Ah, per cui non quindi, era nata all'inizio con no, l'organo? No, ma perché non lo usiamo, dai, non si può non usare l'organo da chiesa. A chi l'ha detto? Beh, a Gaslini, siamo... a tutti gli altri, a Pignatè, a chi, con chi parla con tutto il gruppo di Goblin. Ma a Gaslini c'è stato ben poco, per perché poco, in realtà vogliamo poco. E quindi gli altri ho detto, beh, facciamolo. Dice, bella idea, sì, sì. E poi è nato l'organo. Se avessimo registrato un altro studio non ci sarebbe stato l'organo da chiesa. Vedi come nascono tante volte, sì, le cose sì, geniali sì. Nascono per esigenze istantanee. Vero. E lì tiri fuori una musica che io mi ricordo ancora che a Messaggeria Musicale, che non c'è più a Vercorso, c'era la fila per poter prendere il 33 giri di Profondo Rosso. È stato un grande successo. Io sono arrivato, sì, è toccato sì, a me e non c'era più. Non c'era più. No, io l'ho ricomprato l'altra settimana. Ah, ecco, esatto. Con e il io vinile ti ho portato rosso. Un'altra sì. Una versione bella mai portata, sì. Sì, ma, sì, sì. Una meraviglia. Esatto. E ecco, come è successo? Perché lì c'è stata proprio una sterzata della colonna sonora. La voce, guarda, del film. Cioè, allora, Dario Argento che... vi ha cercato. Tu, allora, è nato Dario. Tutto così. Allora, tu ben conoscevi Carlo Bixio. Certo, ecco, beh, grande editore. Sì, grande, esatto. E lui era l'editore dei film di Dario Argento. Allora, perché fino a poco tempo prima era Ennio Morricone con Quattro Mosche di Luigi. Sì, sì, esatto. No, però lui aveva fatto poi Cinque Giornate con Gaslini, che è l'unico film di Dario che non è un thriller. E no, quindi aveva conosciuto Gaslini e quindi ha richiamato Gaslini per fare Profondo Rosso. Se non che, grazie a mio padre, anche era un artista della Cinebox Record, e mio padre ci propose a Carlo Bixio, dice: guarda, c'è questo gruppo di mio figlio che fanno musica prog, così prog, esatto. Gotica, sì. Poi neanche esisteva questo nome prog che è venuto dopo, però allora musica pop, pop rock. Allora, allora facemmo il contratto con la Cinebox Record e Dario Argento ha appena finito Profondo Rosso e chiese a Carlo Bixio di fare la colonna sonora, sì, e doveva essere di Gaslini, però la voleva rock, non voleva più il solito stereotipo dell'orchestra, e allora disse: dai, chiamiamo i Pink Floyd, i Deep Purple, certo, gli Zeppelin, Emerson, Lake e Palmer, certo, quelli erano in periodo, esatto, periodo Carlo quello. Bixio invece ha detto: aspetta, aspetta, prima ascolto questi ragazzi che sto producendo in studio, magari ti possono interessare. Lui venne in studio, ascoltò l'album che stavamo facendo e disse: mi piacciono, perché no? Per cui ancora le note di Profondo Rosso non uscite. No, noi dovevamo semplicemente eseguire le musiche di Gaslini fatte a rock, a modo nostro, così. E abbiamo cominciato, siamo entrati in studio, abbiamo cominciato. Poi il destino ha voluto che Gaslini, per motivi che ancora non conosciamo, litigò con Dario Argento e se ne andò. Dario poi non è uno facile, no, cioè, esatto, volte non è uno facile, esatto, quindi è molto facile litigare con lui e quindi Gaslini se ne andò, anche perché non veniva mai, stava sempre a fare concerti, Gaslini era molto snob chic, così nascono le stelle, esatto. Si sente poco bene la protagonista che pensa di essere insostituibile, arriva poi... la Vischelletta che stava in camerino come i body double, esatto, e nasce una stella suo. E niente, così andò. Allora venne un giorno Dario e disse: ragazzi, non c'è più Gaslini. Non c'è più Gaslini, che è successo? Yuhu. Dice: però mancano tutti i temi principali, dovete farli voi. Cioè, tu immaginati, noi, il più grande di tutti ero io e non avevo neanche 23 anni. Oh, giovanissimo. Una responsabilità enorme, come dobbiamo fare musica? Poi non il film più importante della gente è rimasto nella storia. Lui era già una superstar mondiale, noi eravamo dei ragazzini. E quindi siamo andati in studio da me, era una notte buia e tempestosa, come diceva Snoopy. E scrivemo Profondo Rosso guardando nella mia immagini nella mia, no, quell'epoca c'è, come facciamo, non c'era niente, avevamo visto il film, ma per cui l'idea del film non c'era computer, non c'era niente, non c'era neanche VHS, non c'era niente, e quindi abbiamo scritto questo tema nella mia cantina, il giorno dopo gli abbiamo portato un nastrino col provino, certo, e abbiamo registrato e è nato Profondo Rosso. Poi abbiamo fatto i temi principali, insomma, quelli dei delitti, Beh, e quindi di una modernità, però quel la disco. Cosa forte è che noi abbiamo registrato quel disco così. Calcola che vivevamo gli anni 70. Gli anni 70 oggi si ricordano come gli anni della musica prog, certo, ma in realtà eravamo sempre underground, no? Lì c'erano sempre i cugini di campagna. Certo, ci avevamo gli ospiti l'altra settimana. Sì, una volta abbiamo fatto un concerto bellissimo in Nord Italia, Cugini di Campagna Goblin, storico. Cugini di Campagna Goblin, eravamo... come che so, Pino Segni, sì, e Barry White. Beh, no, anzi, già c'è più affinità. È vero. Sì. Però dobbiamo andare un attimo, sì, pubblicità, sì, ma pochissimo, e poi ricominciamo a raccontare queste storie bellissime. Tra poco con Claudio Simonetti, Voice Anatomy. Tra poco, signore. Voice Anatomy. Beh, non sapete i regali che mi ha portato Simonetti. Lui sa che io sono un pazzo collezionista di colonne sonore da film, ce ne ho circa 13.000. Sono stato a casa tua, me lo ricordo bene. Cioè, c'ho anche, ho allargato. In box, sì, a tua ex casa, anzi. Sì, sì, adesso ci siamo allargati. Sì, sì. E per cui c'ho tutto, che so, pure del Profondo Rosso, c'ho pure un dente di quello che ha rotto su. Però lui mi ha portato delle edizioni speciali meravigliose. No, adesso abbiamo ristampato tutte. Ma stanno riuscendo per i vinili, stanno riuscendo alla grande. È l'unica cosa che non può essere. No, è un oggetto clonata, meraviglioso. È bello, molto, sì, infatti. Con tutto il fruscio, ma chi se ne frega? No, perché c'è una profondità, diverso, guarda, c'è un'altra cosa. pure sto ricomprando i vinili un'altra volta, anche quelli che già avevo però ristampati. Sì. Effettivamente sì, la purezza del digitale, sì, è vero che senti tutto, senti anche un tamburello in lontananza. Sì, ma senti la profondità del suono. La pasta non è quella. Ma anche noi al doppiaggio, quando non si doppia più col valvolare, sì, che ti dà quella profondità, ti prende, certo, i bassi, gli alti, certo, i medi, cioè c'è una gamma totale. Il digitale taglia. Taglia, comprime. Sì, purtroppo sì. Allora, è vero che non senti il fruscio, ma sta entrando anche un grande regista che è Stefano Reali. Che è entrato con la telecamera. Ci siamo visti sere fa. Come ciao, stai? Beh, tu? Beh, c'è il microfono di là, Reali, eh? Adesso ci vado. Vabbè, adesso il nostro grande amico. Ma perché fai della diretta? È una diretta quella, no, che stai facendo? No, è una diretta, non mi permetterei mai. Ah, così, si è portato, da bravo regista si è portato, come si chiama questa cosa cinese qui? Niente, è un affare cinese che è sempre il microfono, tu lo so che sei regista. Devo piazzare le macchine. Sì, è certo, la gente a casa. Esatto. Claudio, allora ci siamo visti una settimana fa. Anche meno. Anche meno. Siamo andati a vedere il nostro amico Emanuele Salce. Buona domenica a tutti, buona domenica. Eccolo Stefano Reali, qui arrivano tantissimi messaggi. Claudio Simonetti, esempio di genio e passione che rendono la musica italiana un'arte preziosa, vanto nel mondo. Film come Profondo Rosso, Fenomena, Zombie devono sicuramente ai Goblin il loro successo, melodie che trascendono il contesto cinematografico, entrando nel cuore di intere generazioni. Un grosso saluto al maestro Dino Capuano e tante altre, perché abbiamo parlato di Pasolini, stanno anche salutando il tuo papà e qualcuno ritorna indietro con quelle bellissime, certo, musiche. No, ma sono tanti, tanti. Ancora Stefano Reali non ha nessun tipo di messaggio perché è entrato prepotentemente all'interno di questa avventura domenicale. Abbiamo cominciato con papà, con il parallelismo fra Profondo Rosso e Gamma che sono usciti, è stato scalzato il primo posto di Profondo Rosso dopo 16 settimane da Gamma, sì, per sì, cui sì, manco sì, poi litiga col papà. No, no. Sto facendo il riassunto delle puntate. Bellissimo. Ma Stefano Reali sa tutto. Diciamo, di questo sono particolarmente al corrente, un po' perché c'ero, per età, per anagrafe, certo, e per amore comune per la musica. E poi perché ero un grande fan sia di Dario, con cui ho fatto anche l'assistente alla regia. Ma dai, sì. Ah, per cui sei bello allenato, sei ecco bello perché allenato. Sei bello allenato, eh? E poi perché musicalmente la colonna sonora di Profondo Rosso è stata un unicum irripetibile in Italia. Sì. Cioè un tipo di fenomeno che non ha avuto né precedenti né poi fatti analoghi dopo. Per cui insomma. No, è vero, poi tu sei anche musicista, un direttore, sì, d'orchestra. Nasco musicista, te la, in realtà. Te la canti e te la suoni quando fai uno sceneggiato. Nasco io musicista. Io lo chiamo sceneggiato le tue cose, non le voglio chiamare fiction. Tu sei uno dei pochi esponenti di questa televisione che racconta storie. Ex televisione. Ex televisione. Non c'è più quella televisione. Sì, però tu l'hai vissuta da regista di sceneggiati. Un po' come era il Gamma, come era, sì, Lungo il Fiume, certo, sull'acqua, come erano quelli di una volta. No, poi per vogliamo fare dire una cosa, che erano momenti in cui la gente che amava un prodotto televisivo cantava la colonna sonora strumentale, sa, ricordava, sì, ed era una cosa, è come quando nei Sanremi, quelli veri, diciamo quelli degli anni 60, dove la gente cantava gli arrangiamenti delle canzoni, oltre a cantare delle canzoni, perché era tutto narrativo, era tutto per la fruizione diciamo popolare, e noi le colonne sonore ci stavano 16 settimane, 20 settimane, 60, perché c'era un amore per la comunicazione delle persone, cosa che ahimè si è lost in space, lost in space. Lost in, il lost problema di fondo è di base è che secondo me oggi c'è troppa roba. Allora la cioè gente c'è era anche di tutto costretta a vedere quello perché c'era solo quello. Sì, però costretta in maniera così, non è coercizzata. Se ci fossero stati 15 canali dove in uno facevano Gamma, l'altro facevano non so se sarebbe stata la stessa cosa. Non lo so, io credo che la qualità paghi sempre, declinata in qualsiasi modo. Però cioè, se la tu gente fai un prodotto scopre, di qualità è difficile. Non avrebbe fatto i numeri che facevano prima. Prima, certo, lo sceneggiato faceva 27 milioni d'ascolto, 30 milioni perché c'era quello. Ma è vero pure che raccontava una storia che ti teneva anche incollata allo schermo. È ovvio che se rivedi adesso Belfagor o Jekyll di Albertazzi, magari sorridi in qualche momento. Ma, però non lo so. Ma, non lo so. Cioè, il segno del comando. Esatto. Ha fatto 50 anni, 45 anni, che ancora oggi, se tu lo vedi, pur con quei tempi, quelle zoomate, esatto, così, ha una progressione una drammaturgica. Che vuol dire? Ma come facevi? Ragazzi, tu ti cagavi sotto, posso dirlo perché sono sdoganato da Cruciani, ti cagavi sotto quando Carla Gravina prendeva il candelabro e attraversava lo sopra, sì, una, sì, sorta di anticipo di Shalaman del sesto senso, sì, il secondo piano che mette paura. Te bastava quello e la fontana che non c'era. Sì, cioè, poi comunque, le notizie sulla storia di Roma, le informazioni su una... cioè il fatto che Byron era stato a Roma, ma chi lo sapeva che Byron? No, certo, lo sapevi? Ma io, Byron, beh, c'è non, non mi ha chiamato, sì, c'è stato l'hotel, però dove sta lui, dove però stava lui, non, non lo sapevamo, c'è pure il Picasso magari, ma non sappiamo, ma poi si andava in giro per Roma per cercare le location. Io penso una cosa, c'è stato un momento in cui il servizio pubblico, come si chiama ora e che allora non si chiamava così, e gli ha fatto male perché è assimilato ai cessi ormai il servizio pubblico, e per noi la RAI dava finisce qui. Una dava, no, dico nella mentalità, nell'accezione, dava una serie di cose. Innanzitutto entrava nelle case, per cui aveva la responsabilità di fare intrattenimento e didattica. Cioè, quando c'è a proposito, ci sta ascoltando Restelli, che è il capo delle risorse artistiche, grande amico di questa trasmissione, grande amico anche mio, di Mediaset, per cui non stai parlando di Mediaset, stai parlando del servizio pubblico. Parlo del servizio tranquillo pubblico. Giorgio, quando quello c'era... è un altro servizio pubblico, quello è, quando quello c'era... è privato, ma fa, sì, sì, fa il suo lavoro. L'Odissea, e andava in onda l'Odissea, Franco Rosi. Tutta mezza Italia sapeva una cosa il giorno dopo che prima non sapeva, e chi era curioso, incuriosito, andava a studiare, andava a cercarsi a pochi in verità, ma insomma qualcuno c'era, per cui c'era questa funzione bella di fare intrattenimento, di fare narrativa, che serviva anche a qualcosa, che serviva a restituire cultura, informazioni, storie, curiosità. Signori, Giuseppe Ungaretti apriva lo sceneggiato, Giuseppe Ungaretti, lui leggeva i primi passi dell'Odissea di Omero, e parliamo di Ungaretti, non beh, è... basta pensare, non è mai troppo tardi, la gente imparava a leggere, a scrivere con Alberto Manzi, che non è stata una cosa... Ma la regia di Franco Rossi, poco, vogliamo parlare ancora di Polifemo? Cinema. Quanta paura fa? Cinema puro. Senza chroma key o blu screen o green screen, la paura che può mettere ancora quella scena, la tensione con i proci, del tirato attento con l'arco, cioè, attento, no, no, ma l'orario ce lo conosciamo, bisogna stare attenti. Begin Femiu, non Femiu, no? Begin Femiu e Irene Papas. Beh, io conosco. Che era la cantante di Mamma Sen Papa. No, poi Simonetti deve sapere che è cretino, veramente. Cioè, l'amico goliardico che beh, dietro. No, devo dire compositori. Che qui... beh, la scuola è la stessa, però. Sì, no, a scuola sì, ci assomigliamo, sì, da, sì, per questo ci vogliamo bene. Sì, meno male che c'è Reali. Siete cose simili, devo dire. Sì, è vero, ci assomigliamo. Io ho messo Reali perché, sì, insomma, sì, capito. Sì. Beh, lui il suo cognome, però, è in più. Sì, no, poi ha studiato più di noi, potrò dire. Leggo un attimo dove insegna, cosa fa, insomma. Noi siamo il popolo, noi siamo i populisti di questa trasmissione. Beh, tu insegni, quindi... ma io insegno da 57 anni, ringraziandoci da cognome. Gratitudine, sentite, poi gli ascoltatori, i radioascoltatori di Radio 24, è un pubblico attivo straordinario, perché sono attenti, ti correggono, sono vicini a te, sono intensi, e anche i messaggi sono belli. Gratitudine, emotivo, sentimento sempre più raro. Sto provando tramite i tuoi ospiti un meritevole frutto d'un magico eterno albero. Beh, capito. Ma ci sono i poeti che ci ascoltano. No, vabbè, complimento. No, sì. Parlo della lingua italiana, anche perché prima ho fatto ascoltare, ho avuto Ninetto Davoli, abbiamo raccontato, sì, perché oggi è la festa, è la festa. Nasceva Pierpaolo Pasolini il 5 marzo, e anche Lucio Battisti, pensate oggi che giornata. Ieri era Dalla invece, no? Ieri Dalla, sì, credo oggi. Però... Dalla che poi era morto 4 il giorno marzo. Prima, che era morto il 3, sì, mi pare. Sì, una, sì, cosa, sì, stranissima. Per cui è bellissimo, insomma. Giornata è, per cui ho mandato anche un momento dove Pierpaolo Pasolini parla della lingua italiana, visto che questo è Voice Anatomy, insomma, si racconta. Io chiedo all'altra parte del video di ricordarmi quando finisce il blocco, è 30 se non sbaglio, e 28, la precisione di Valerio, dopo tanto tempo è tornato, eccetera. Allora, Claudio, tu hai studiato all'Accademia di Santa Cecilia. Sì. Ma insomma, per cui c'è la preparazione classica. Beh, anche tu, sì, proprio... No, io ho la grande fortuna di studiare, perché quando decisi di fare musicista, mio padre mi disse, ah, vabbè, e lasciai il liceo addirittura, sì, con un grande orrore di mia madre, e certo, mio padre invece, vabbè... Vabbè, vuoi fare musicista? Che bello che mio padre era un musicista di successo, e mia madre spaventatissima che io facessi musicista, come c'è, cioè, un marito che è che di successo, dice, ma due, esatto, non mi dice così, però fortuna, dice, non è così facile, in effetti non lo è, e quindi mio padre disse, vabbè, puoi farlo, però fallo seriamente, e mi iscrisse al conservatorio. Ah, si poteva fare il conservatorio nonostante tu non abbia, tu non hai finito il liceo? No, perché allora non era non c'era il liceo come adesso, quindi ho fatto conservatorio, e meno male, meno male che ho chiamato Reali, sì, ha finito il liceo, ha fatto l'università, sì, sì, pure tu, no. Io ho fatto il conservatorio e non ho fatto l'università, penso. Vedi, allora però siamo in due. Ce l'hai il diploma del liceo? C'ho il diploma del liceo, okay. ho fatto anche il centro sperimentale, ma dopo l'ottavo anno di pianoforte al conservatorio, perché, ecco, lì era, cioè, per fare c'era un tipo di esame di strumento che non potevi fare nient'altro, non è che si poteva fare. Per cui tu hai pensato prima ad essere un musicista, prima ad essere un regista? Io nasco musicista, poi dopo il diploma in direzione di coro mi faccio, sono stato chiamato da Proietti, anzi mi sono proposto da Proietti, che c'era una scuola, io avevo 20 anni, 21 sì. anni. E fare il direttore di coro lì. Io sono entrato lì per fare il direttore di coro, e dove c'erano la Ganà, che sì, Brignano, esatto. No, Brignano arrivava dopo, Cruciani, Bert Muller, e io avevo la loro stessa età e insegnavo coro, facevo attività così. E quando ho visto Proietti che faceva la regia delle scenette, ho detto: oh, voglio far pure io. Ma che so, sai quando c'è, quindi in quei film c'è il cono di luce, tutti gli altri la vanno musica. Al buio, no? Oh, sì, sì, sì. Ci sono, senti le campane, dici: io questo volere fare. E allora resta così, perché 28 e 25 Mica. Secondi mi ammazzano, se no. A tra pochissimo, Radio 24, Simonetti, Reali, e ci ha già raggiunto anche Claudio Di Biagio, un altro eroe moderno. Prego, a tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, alla mia sinistra Claudio Simonetti. Eccoci che qua. Poi va in contrasto, no, grande Stefano Reali alla mia destra, con la sua musica, lui sorridente, sornione, con queste musiche pazzesche. No, abbiamo aperto con Profondo Rosso, io andrei adesso su un fenomeno magari. Eccolo. Dai, andiamo. Era una notte come tante altre. Hai doppiato il film dell'oro? Sì, ma poi scappo dai film dell'oro, perché se sì. strilla troppo, non mi piace. Sto parlando per prendere questi intro, perché questi elettroni... Lascia. È uno dei miei preferiti. Bellissimo. Com'è Reali questo fenomeno? A parte che io ho fatto un po' di preparazione in questo film. Insieme a Dario. Ah, perché hai lavorato con questo film? Sì, come assistente volontario sul fenomeno. Sì, sì. Cioè, a gratis, così dice. Sì, poi mi ha cacciato via l'aiuto regista primo, schiavo. Di cui non così. Faccio il nome perché è vivente. Perché e lavorante. Però mi fece le scarpe, simpaticamente. Ecco. Ma facciamo questi nomi? No, tanto lo so. Serve, tanto... Andate a cercare Fenomena, che è l'aiuto regista, e scrivetelo. Ah, beh, sono sì, nostro 349-238-666. Michele Soavi. Michele Soavi, dai, sì, vabbè. Simpaticamente. Ci sta, sì, simpaticamente da sì, fatto sì, fuori. Mi fece fuori. Sì, sì, pure Amadeus. Vabbè. La cosa che mi è piaciuta sempre molto delle musiche di Claudio, non perché è presente, e perché ha dato nobiltà a uno schema che in realtà, anche se può sembrare strano quello che sto per dire, è uno schema del blues. E cioè nobilitare un arpeggio, nobilitare una frase musicale che rimane sempre la stessa ma cambiando l'armonia sotto, è quello che ha fatto il blues. Poi noi lo abbiamo, ce lo siamo girato e piegato. E devo dire che è stata una grande invenzione, una grande innovazione. Da quel momento credo che tantissimi compositori di musica thriller ti debbano qualcosa. Sì, come Morricone per il western, Simonetti per il thriller. Penso di sì, perché è stata proprio un... Tu lo sapevi che stavi combinando questo col blues? Provato, guarda. Non te ne rendevi quando conto. Abbiamo fatto Profondo Rosso, tutto ci saremmo aspettati, meno che questo successo assurdo. Per noi era una cosa così... Per noi finiva lì. Capito? Sì, però era l'innovazione. Io, secondo me, Stefano, l'innovazione paga sempre. Lì. Nel senso, normalmente uno scrive tutto ciò che ha raccolto e poi lo vomita su un pezzo di carta, su un pentagramma, su qualcosa. Ma poi. Era stata una grande innovazione timbrica, no, di timbri vero, nuovi, sì. di strumenti nuovi, melodica e armonica. E era una roba che non c'era precedenti in Italia. E tra l'altro, prima di Profondo Rosso, questo va anche detto, era difficile trovare in classifica. Nelle classifiche dei brani solo strumentali, ma poi di quel tipo, sì, solo strumentale è difficile, a meno che non era lo sceneggiato, no, ma diciamo che ci poteva essere Santo e Johnny o Fausto Papetti, cioè certo. delle riletture pop di melodie già famose di loro, quelle che sentite sull'aereo quando sta per decollare, ma no, cioè se c'era, che te posso dire, c'era il Dio Serpente, ti faccio la versione per sax solo, ma io la melodia già la conoscevo. Invece il fatto di proporre una nuova melodia strumentale che nasceva, che non poteva essere cantata, perché non è che ti puoi mettere a cantare no, profondo rosso è difficilissimo. Profondo Rosso non ha una melodia, e questa è la cosa che mi ha sempre, forse l'atmosfera, tutto, perché Uno sì, ma viveva anche senza film. Canta mente di Pinci. Non lo puoi cantare. Sì. Questa sì. No, questa sì, anche Gamma. Questa è molto gothic rock, comunque. Molto un po' pre-Nightwish. Esatto, molto prima. Facciamoci capire che ci siamo anche noi da Stefano Reali. Altrimenti questo ci mette in mezzo per tutta la trasmissione e chiede aiuto. Bentornato Valerio, ti dicono, caro Valerio. Francesca e Pino il Segugio. Questa musica mi mette ancora ansia e paura. Meno male. Poi ogni tanto incontro qualcuno e mi dice: sai, le tue musiche mi hanno fatto dormire per tanti anni, così. E beh, tu le spegni la notte, ma no, devi levarla la notte, perché se la lasci accesa il giradischi è normale che tu non dormi a notte. È giusto, perché la tenevano sempre a volume alto, ecco perché, è vero. Ah, c'è un pezzo di Stefano Reali, dice Mauro Meconi, uno degli autori, insieme ad Alessia Navarro, che è capo progetto, è anche attore, tu lo sai perché ce l'ha avuto anche nell'ultima... In una parte significativa e importante. Esatto, cosa che non hai mai avuto me, ma ne parleremo più avanti. Non ti sta prendendo in giro, mi dice all'orecchio, non ti prende in giro. Sentiamo un momento di pianoforte di Stefano Reali. Ma come? Mio? Certo, ma che prego. Sei scemo? Eccolo. Sì, ma non l'ho scritta io questa. No, questa è Gershwin. Questa era durante la pausa di lavorazione in film, che c'era Bertini che si è messo con telefonino e ti ha ripreso. Ma io sono stato presente a certe situazioni dove tu dai sfoggio insieme a Morricone della vostra arte a casa, intorno a un tavolo con un po' d'amici, e sono momenti molto lì belli. Lì ci lega la Roma, lo sai. Sì, sì, no, non parliamo di questo perché poi non è anche buon periodo, soprattutto, ma è un periodo... Posso dire una cosa? Sì. Secondo me, e lo dico da tifoso dove non c'è proprio la possibilità che qualcuno possa equivocarmi, una grande dimostrazione di onestà intellettuale è quando riconoscere che un avversario ti ha dato lezioni di calcio. E te l'ha date profondamente, con signorilità e anche senza tracotanza, che è una cosa che... Beh, Inzaghi è sicuramente un No, non brava parlavo persona. Di Inzaghi, parlavo di Sarri, non parlavo di Inzaghi. Ma lo so, però io cercavo di portare a casa un commento positivo. Per cui chapeau a chi ci dà lezioni di calcio, e speriamo che si difenda bene in Europa, perché avere una squadra... Tipo assoluto in Europa, sia italiani, io sono un nazionalista fino all'inverosimile, io metterei l'inno nazionale a scuola in apertura, per cui... Proprio per ricordare di che nazione facciamo parte, perché a livello internazionale sì. No, ma lì c'è stato un po' di prosopopea anche della Roma, e soprattutto non un turnover adeguato, perché insomma non puoi giocare tre partite così importanti in sei giorni, insomma, dai, non puoi... Sicuramente qualcuno ha fatto degli errori. Esatto. Di tanti... Ma lui ciao, lo dirò in italiano, fra poco analizzerà Capuano, tra poco Pardo, per tutti i convocati, che è la trasmissione che segue a ruota a Voi Sanato, e poi ci colleghiamo con lui, che fino all'altro anno lo chiamavo mai una gioia, perché ogni volta mi risulta della Lazio. Come io vengo qui proprio per non sentir parlare di calcio, e tu mi ricordi quei momenti terrificanti. Ah, tu sei razziale? Sì. Beh, siamo in due. Chiedere abbiamo questo dramma. Ah, anche sì, dare argento, grazie sì, razziale. Anche dare, questo non depone al nostro favore. No. Fa un po' paura, visto che noi giochiamo sempre col terrore. A sto punto la regia di una partita della Lazio può essere di dare argento con la musica tua, è perfetta. La, la, la, la, la, la, però ogni partita è un thriller, non si sa mai come finisce. Ma quel tema, esatto, quello lì era vostro, quel no, tema. Quel tema l'aveva già scritto Gaslini, perché quel tema lì, che c'ha bambina, una parte che comincia in maggiore poi diventa in minore, è no, quella, è bello molto bello. Noi siamo entrati che già era... ho scoperto l'altro giorno, mi ha detto uno, non mi ricordo chi, che la bambina che cantò quel pezzo è la coach di tale quale. Ma va? Sì. Cioè cosa? Si chiama Maria Grazia Fontana, possibile? Sì, è lei. Guardate, se volete sapere tutto della vostra vita, voi c'è un'applicazione che potete scaricare che si chiama App Reali. Voi cliccate e chiedete tutto quello che chi ha vinto Sanremo nel 54. No, loro... Wiki Reale. Esatto, Wiki Reale, la teoria quantistica attraverso gli occhi. Lui lo sa, cliccate e c'è lui che vi risponde. Sei anche te la più grande autorità vivente in Italia sulle colonne sonore. Se vai a casa sua lo capisci. Ma che sono cresciuto, io ho saccheggiato qualunque tipo di copie. Sono i bignami o delle cose. No, sei un raffinato bibliotecario. Come definiva queste persone Baldassarre Castiglione, sono il perfetto cortegiano, quello che sa pizzico di tutto, ma si ferma un attimo prima che la gente capisca se Asa fa davvero qualcosa. Questa è carina. Capito? Io sono così. Ma il tip tap, cavolo, mi fermo prima che la gente capisca che finisce alla terza chiave. Ma a parte questo, grande Pino, ti ascolto con piacere, mi ha fatto ritornare nella mia natia Roma, perché vive fuori, in Sicilia, ai tempi d'oro della mia gioventù, della classe 64, adesso vivo in questa splendida terra. Davvero sono d'accordo con te, che la Sicilia. Altri complimenti, eccetera, eccetera. Insomma, tu sei... chi vuole essere talent sia del domani non c'è certezza, dice Mario. Perché ogni tanto abbiamo questi talent che sono scorciatoie per l'inferno, spesso e volentieri. No? L'inferno in non quello di Dario, l'inferno dantesco. No, l'inferno dantesco. Eccetera, posso dire una cosa? Sì. Mai sorpreso con la citazione di Baldassarre Castiglione? Perché mi fermo lì. Però, ma mai sorpreso veramente? Sì. Io penso che tanta gente a casa non ha la minima idea di quanta preparazione, di quanta raffinatezza e di quanto gusto anche enciclopedico ci sia dietro Pino Insegno e la sua storia professionale. Allora, per le prossime puntate, non lo sa. È ospite fisso. Non di lo sa, mi spiace non lo questa sa. Cosa. Posso pubblicare dei piccoli documentari, dei bootleg delle... viventi, dei coccodrilli viventi. Puoi fare Reali, le musica pillole di Stefano Reali. Io le voglio pubblicare. Fallo. Voglio venire a casa tua, nottetempo, guardate un po' il quello che biografo. Fa di notte Pino. Voi non ci pensate. Però. Non... mi lascio anche andare, per cui lasciamo proprio tutto. Sono un essere umano e ogni tanto provoco anche dei piaceri personali. Comunque, a parte questo, sì, ma naturalmente Franco non ha una voce coinvolgente. Franco chi? Chi Franco? Non importa di cosa parla o con chi parla. Purtroppo non ha una voce entusiasta e non ride quando Pino hai detto una cosa super intelligente. È giusta, ricordiamoci che siamo italiani, viva l'inno nazionale, vabbè, qui stiamo andando. Va bene, a parte questo, insomma, tu c'hai una preparazione classica come ce l'ha avuta Stefano, sì, Reali. Tu sì, sei sì. rimasto musicista, Stefano è continuato come attore. Tu hai cominciato poi con come un gruppo attore, che già no? è come attore, come regista, perdona, ecco, l'unica cosa che non hai mai fatto. Il tuo gruppo iniziale era ritratto di Dorian Gray. Dorian Gray, sì. Cioè, sì. Per cui già da lì c'era comunque un tocco misterioso nella tua Oscar vita. Oscar Wilde è stato il mio scrittore preferito dall'epoca. Era bellissimo quando andavamo a suonare. La domanda sai qual era? Chi è Dorian Gray di voi? Questo è bellissimo. La preparazione dell'epoca. Con chi gioca? Una volta il ritratto di Doris Day. Ma avete fatto dei dischi anche? No, gruppo. Purtroppo no. Ah, guarda che peccato. Una volta, al contrario di oggi, il punto di arrivo era fare il disco. Certo. Oggi è un punto di partenza. Sì, oggi allora entrare in una sala con quello che costava e tutto, trovare una produzione, era già una vincita all'otto, anche se poi non si vendeva niente. Poi c'è stato il periodo londinese. Sì. Dove vi siete chiamati sempre Oliver. Oliver, esatto, e quello Oliver era l'album che avevamo preparato per poi fare registrarlo in Italia e poi e grazie Profondo a quello Dario Argento ci scelse per fare Profondo Rosso. Quindi, ah, ecco, esatto. È su quello che... Perché lui sì. è sempre stato attento alle novità del rock, devo dire. No, lui no, Bixio, perché tu sei arrivato dopo. Carlo Bixio era il nostro Bixio. Produttore. Sì. E, quando Dario gli chiese di fare, lo dico perché avesse acceso la radio. Ma adesso, Carlo Bixio, Carlo Bixio, sì. quello, del, Carlo Bixio, quello che Bixio. Ha fatto poi la pubblicità. Sì, Public Space, certo, la produzione la Cinevox Record, Bixio, sì. Sono più grandi editori italiani di musica da film, certo. Ha fatto, c'era una volta Western in America, sì, certo. Tutti i film di Sergio Leone, e allora Dario gli chiese, siccome stava facendo Profondo Rosso, era già il... voleva i Deep Purple, i Floyd, Simonetti, dice guarda abbiamo questi qui, vieni in... No, invece lui venne in studio molto carinamente, Dario ascoltò quello che stavamo facendo e disse ma mi piace, li prendi, proviamo, e noi dovevamo semplicemente eseguire le musiche di Gastrini, invece poi dopo persona... abbiamo fatto tutto noi. Ma perché certo. Gastrini poi litigò con Dario, se ne andò. Dario era una persona Dario veramente litiga... ironica, nessuno se l'aspetta, sembra, sì. sembra faceva cattiva. Molto ridere, sì, sì. No, Dario è un comico. No, è... Mi venne a vedere a teatro una volta, si nascose in camerino, io non lo sapevo, mia madre entrò in camerino per salutarmi, ma io non ero ancora tornato in camerino, ma c'era Dario sotto al tavolo, che è uscito fuori facendo paura a mia madre. Ma dai! Sì, cioè gli ha messo paura, fa paura, comunque fa paura a prescindere, ma lui è uscito sotto al tavolo e dice, ah! Mia madre gli è presa a colpo perché si è visto questo pazzo che usciva e poi dice, andiamo a mangiare all'obitorio, dico Dario cambiamo qualcosa, che a Roma c'è un locale dove stanno i tavoli di marmo, dice andiamo a mangiare all'obitorio, sì. No, sta via di Trastevere, stiamo facendo pubblicità, no, ce n'è un altro, sì. Vabbè. Comunque, c'è una... marmo. Casa Mortaro, c'è un piccolo aneddoto che credo potrà divertirvi. Aspetta, che ora dobbiamo andare in chiusura? Già dovevamo chiudere, allora raccontiamo fra un po' e facciamo entrare anche Claudio Di Biagio che si unirà a questa tavola rotonda cinematograph musical sceneggiator a tra poco con Voice Anatomy. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. E allora, gruppo ricco micifico, come dicevano amici miei, ci ha raggiunto anche Claudio Di Biagio. Claudio Simonetti, Claudio Di Biagio, poi c'è Stefano e Pino, va bene. Claudio Di Biagio, che è conosciutissimo dalle nuove leve, perché qui ci sono varie generazioni su questo tavolo. Tu, Di Biagio, nasci come youtuber. Sì, nasco come youtuber. Non voglio dire una cosa sbagliata. Se sbaglio una cosa, l'hai anche bene con la tua voce, quindi è fichissimo. Non aprite questo tubo. Esatto, eppure l'hanno aperto in tanti, purtroppo per loro l'hanno aperto in tantissimi, dal 2010. Quindi nasco come youtuber, ecco, sono nella live di Reali, ciao. sono quello meno sui social. Oggi arriva subito un sacco di gente. Eccoci qua, come dicevo, comunque nasco come youtuber. Nel 2010, e poi piano piano mi accorgo che potenzialmente potevo anche far regista, che così succede. Ma successo, voi siete tutti, perché lui faceva musicista e per caso vide proiettile, è diventato Simonetti. Tu musicista? No, io faccio musicista fin da piccolo. Vabbè, sì, non eri da quando suonavo nelle feste la chitarretta. E poi c'è una cosa carina, tu dici: no, è bello, devi fare il musicista rimorchi nelle feste. Invece, no, io suonavo, rimorchiavano gli altri. È sempre così, sempre. Sulla spiaggia, chi suona la chitarra non rimorchia, no, vero, cioè, vero. Se deve accontentate chi rimane dispara alla fine, perché forse per come suonavamo a 14 anni non scappavamo. No, chi rimane dispara niente. Fuori Roma è difficile. Chi rimane dispara, la donna che resta l'idea. Sola dopo il rimorchio che c'è stato durante le vostre esibizioni noi musicali gli strumenti e rimaneva quella, invece andavano via con i ragazzi e noi la smontavamo. Infatti si diceva buonanotte ai suonatori, perché l'altro andavano, i musicisti dovevano smontare. Mio padre faceva una notte al secchio, invece ti ricordi nella trasmissione, vero, quando finiva la favoletta prendeva il secchio, diceva una notte al secchio. Non era mai pure, era demenziale, vero, tutto, in anticipo sui tempi. Caro Di Biagio, sì, ecco, allora tu sì. Nasci per caso lì, hai voluto fare questo canale, beh, eccetera? Sì, sì, sì, in realtà. Che raccontavi, Claudio? Beh, un po' di tutto, un po' di tutto. Diciamo che dal 2010 al 2016 ho raccontato mia nonna, ho raccontato un po' il cinema per quello che poteva piacermi, poteva rappresentare un po' me e le persone che mi seguivano e che mi seguono, che considero sono tutte dai 18 ai 25, quindi quello è un po' l'età. Che bello. È bello perché YouTube è effettivamente. Guarda i tempi che ho fatto. Pazza, dai 18 ai 25 sono già grandi, vabbè. No. Dimostrano meno, però. Esatto. Certo. La cosa incredibile è capire come effettivamente questo pubblico poi me lo sto portando anche fuori da YouTube, quella è la figata. Adesso certo, che crescendo non ti hanno abbandonato, sei tu che sei cresciuto. Esatto. 28. Beh, io non sono tra 18 giovane. E 25, però sono sempre giovane. 28 sì, anni, no. È come un 19enne di 10 anni fa. Che bello. Quindi mi sento ancora più giovane. Nel 2005 sì. Un 19enne aveva le premesse che c'avevo. Ha sta faccia, capito? C'ha sta faccia. Le premesse di comunicazione e anche di entusiasmo della possibilità che i propri sogni possano essere condivisi dal mondo. Certo, perché la tecnologia oggi ve lo permette, no? Certo. Che bello. Io vedo se dice lui tutto, io sto zitto. No, lui è un'analisi critica vivente. È vero, è una cosa pazzesca. Tullio Gesic qui presente, esatto. Cioè tu fai una cosa e lui già te la critica vivente. Però live su Periscope, quindi è una cosa ancora più live su Periscope. È una cosa pazzesca. Comunque niente, che è bello di YouTube? Bello YouTube è che tu metti una cosa là, non sai nemmeno che cosa possa succedere due secondi dopo e capisci se funziona o no, appunto col feedback del pubblico. Quanta gente avevi che ti seguiva? Sono arrivato a 240.000 iscritti, una cosa del genere. Però diciamo che negli anni poi sono cresciuti, sono cambiati, alcuni ovviamente mi hanno abbandonato, diciamo, altri invece mi hanno conosciuto dopo. E proprio oggi stavo vedendo il mio ultimo video, perché stavo cercando una cosa di lavoro, e il mio ultimo video è un video con mia nonna, perché io facevo questa serie che si chiama E poi te lo magni, che era una serie di ricette improvvisate con mia nonna in cui succedeva veramente il delirio. Mia nonna c'ha 89 anni, ma è un personaggio pazzesco, quindi è tutto molto bello, è tutto veramente, veramente incredibile, come dice Bruno Pizzo, tutto esatto, molto bello, esattamente. No, ma sono le persone che sono i vecchi saggi. Io ho pure mia zia 80enne, che era la prima Erminia dei film di Sordi, la prima che ancora è vivente, sorella di Maurizio Arena, che ha delle sintesi meravigliose della vita. Io dico sempre. Delle persone inutili. La sorella dice una di cosa... Maurizio Arena è tu zia? Sì, anche Maurizio Arena. Mia zia si è preso il fisico, tutto il resto, e io mi sono dovuto accontentare quello che è rimasto biologicamente nel DNA. E lei dice delle persone inutili, quella buttarla in peccato ma tenerla che ce fai. Credo che sia una sintesi meravigliosa invece di utilizzare parolacce. Sì. Loro hanno questa capacità. Mia nonna nei video e dice queste cose a un pubblico appunto molto più giovane. Ma dice... abbiamo la possibilità, Rachele, di scaricare un pezzetto di nonna e figlia e nipote? Ma basta che scrivi e poi te lo magni su certo. YouTube. Però è un po' così, un po' casuale. Ma oggi magari. Quanti ce n'hai di follower? Ma oggi in realtà non lo so, perché non sono più uno youtuber ufficialmente, nel senso che il canale è aperto, però non carico più video nativi, diciamo, esatto, da ottobre. Ho fatto il mio ultimo video, che è proprio questo con mia nonna, e ho salutato il pubblico, diciamo, con una delle serie più amate sul mio canale, che appunto faceva più ridere, e quindi non ho voluto fare quella chiusa melodrammatica, addio. Ragazzi, addio, tornerò. Vi abbandono, sai, che no, perché fanno quasi tutti così gli youtuber, sai, perché sono paraculi, e invece io, si può dire paraculi qui? Sì, si può dire tutto. C'è Cruciani, quindi c'è Cruciani, siamo sui canali. Fino alle 4 si può dire. Dopo le 4 no. Sono di gestione, sì. Quindi che succede? Che appunto li ho lasciati con il sorriso, nel senso, effettivamente così ho iniziato il mio percorso su YouTube e così l'ho chiuso, quindi è una cosa bella, mi pare. Sì, anche perché uno non può dire ok, quello che ho fatto prima non è, sono cresciuto, ho fatto una stupida... No, esatto. Quella esatto. È stata la tua evoluzione, lo che amo, ti ha portato oggi sì. Come regista, che poi sta preparando una cosa che ho visto in stop motion, bellissima, siamo a livelli veramente alti, ci ora non so quanti anni. Stop motion, quindi animazione. Sì. A stop motion. Io ho fatto la voce del trailer. Sì, Pino, ma aspetterò gli incassi e mi chiedergli i soldi. Ho detto esatto. Facciamo per ora gratis col giuramento. A seconda dell'incasso. Sì. Di Stefano Reali sto aspettando ancora la posa che mi deve fare dei film meravigliosi. Certo. Perché noi siamo amici da quanti anni? Come con 36. Come con Claudio. 36. Ma fino a che ancora lui niente. Non ancora riuscito, lui niente. Non mi fa cantare e ci sta. Non ha mai accettato. Io chiamo. Ok, quindi è colpa tua. Non posso morire dopo una posa. Certo, mi puoi chiamare. Doppiare un disco. Un disco, esatto. Doppio un disco. Cioè, nel senso che te lo copi. Con CD 20 ne copio. Grazie pure quest'altro infame. Sto io bene comunque. Quando gli amici sei l'unico che ci penso io. Una volta mi ha chiamato per fare Lebroso dentro al deserto nel quarto re. Ma posso andare Lebroso in Libido? Intanto stavi? Lo feci Tirabassi. Sì, ho capito. Ma e mi pare che gli ha portato bene. Ma Tirabassi era già Tirabassi. No, nel 95 Tirabassi non era niente. Grazie a Lebroso lui poi ha fatto Borsellino. Tanto ufficio. No, poi fece per debito con me, io gli dissi adesso mi devi fare Ultimo, perché io ti ho fatto fare sta roba. Ah, Ultimo, quello dopo vero. Il primo Ultimo lui diventò una cosa, insomma. Ma Giorgio è bravo, ragazzi, comunque parliamo di uno bravo, ma io poi ho scelto un'altra strada, per cui la fiction l'ho abbandonata. Io riesco un grande schermo internazionale, cioè quella è la mia vita, Stefano. Anche perché ti ha dato un amore dal pubblico che non so fino a che punto. Ma il grande schermo, i film dicevo Scorsese, tutte queste certo. Cose, tu sai, insomma, che me se litigano in giro per il mondo. No, dovrei fare. Quando andiamo la lunga pausa, Valerio, fra 30 secondi, perché c'è il GR. Ho imparato dopo 2 anni a dire GR, dicevo c'è il TG. C'è il TG. T'ho abituato alla televisione, per me c'era il TG. C'è il GR. Allora non posso ovviamente andare oltre, perché si chiama Tassativo. E allora restate con noi, perché insomma, dottor Simonetti alla mia sinistra, Stefano Reali e Di Biagio, abbiamo ancora un'oretta di tavola rotonda. Mica tutti i giorni, eh. No, non è da tutti i giorni. Sì. Boreali rimarrà fisso qui, basta che dice le cose che ha detto di me. Sì, sì, sì. Ma so vere. Soltanto io vorrei documentarle come youtuber, sì. Esatto. Introducendomi nottetempo a casa di Pino e approfittando della pazienza di Alessia di riprenderlo quando lui passa le notti a studiare, lì. a classificare. Esatto. Ma come dice Groucho Marx, basta parlare di me. Parlami un po' di te, che ne pensi di me? Benissimo. A tra pochissimo, voi sanatemi questi straordinari ospiti. A tra poco. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci, bentornati signori miei, sono le 16:06:33, alla mia sinistra il bravissimo compositore, musicista, che resta tale, non diventerà mai attore, giusto? Simonetti, ma come pure tu c'è questa velleità adesso. Stefano Reali, musicista. Nel momento di bisogno potrei farlo. Ho capito, c'è Reali che ci può chiamare per fare qualche cosa, sì. Morirai quasi subito, davvero. Stefano Reali e Claudio Di Biagio. Avevamo cominciato a conoscere bene Di Biagio, i suoi inizi da youtuber, poi ci siamo visti durante la pubblicità, il GR, questo trailer bellissimo di questo film ambizioso, stop motion, animazione che vedrà la luce non so fra quanto, perché sì, quanto ci vuole per fare un film in stop motion? Dovete sapere che sono quelle cose tipo Shaun the Sheep, esatto. cerco di spiegarlo, fondamentalmente la stop motion è la faccio proprio for dummies, no, come si dice, come dicono gli for dummies, cioè per incoglioniti, grazie. Praticamente tu prendi una, un secondo di animazione e devi fare una foto, proprio uno scatto, un fotogramma per ogni movimento, e quindi se a passo 1 ne fai 24, se a passo 2 ne fai 12, di conseguenza tu dovresti fare 24 scatti con la macchina fotografica per creare un secondo di movimento, e ogni frame vai a spostare effettivamente il soggetto, quindi il pupazzo, per fotografarlo. E poi non è solo il pupazzo, è la scenografia, no, tutto, l'ho fatto con for dummies, qualsiasi cosa, prego, qualsiasi cosa tu lo metti lì e lo muovi ogni frame e alla fine ti viene il movimento. Per fare un film di 90 minuti vieni qui ospite, che noi saremo, io rincoglionito veramente, dummies, è vero? Esatto. Quanto ci vuole per fare un film in stop motion? Almeno 3 anni. Tre anni. Se iniziamo nel oggi, frattempo tu devi fai gratta e vinci, fai gratta e vinci, faccio il cameriere, faccio il gelataio, il farmacista, ma non prendo una laurea. Scusami, sì, dei software con cui tu puoi, per esempio, non so, se tu devi fare una variazione da un programma all'altro, c'è una cosa che ti ripete quella cosa e te la sposta di un attimo. Sì, ci sono centinaia di software che aiutano, ma il concetto della stop motion, come dice Knight, che è il regista di Kubo, di Coraline, insomma della maggior parte dei film della Laika, la bellezza della stop motion è proprio l'artigianato che c'è dietro, e quindi essendo la più antica, il più antico modo per comunicare l'animazione, per comunicare il movimento nel cinema, fondamentalmente è bello per quello, perché è artigianale. Come erano una volta i disegni della esatto. Disney, esatto. Sono 24 disegni, esatto. Solo che è nato prima la stop motion del cartone animato, perché effettivamente i primi esperimenti di immagine e movimento vennero fatti con degli insetti morti che venivano mossi appunto da questo regista. Vabbè, che una sorta di Frankenstein del cinema, esatto, venivano mossi frame by frame. Gli ha dato la vita. Esattamente. Se tu ci fai caso, gli americani come lo chiamano nel film? Motion picture. Sì, sì, immagini in movimento. Immagini in movimento. È quello il concetto. Che bello, sì. Che bella. Sì. Queste sono tavole rotonde. Questa era l'unica cosa che sapevo. Adesso ho finito, dato la mia cultura. Esatto. Adesso un po' sto zitto. Esatto. I confini delle Marche sono difficili. Esatto. Sono difficili. Eviterò di domandartelo. No, non andiamo avanti. Senti un po', caro Simonetti, ma la tua musica nasce con te, nasce con voi, ovviamente, ma poi ha ispirato, come diceva anche Stefano all'inizio, è stato uno startup importantissimo per il cambiamento anche della colonna sonora. John Carpenter, credo che sia figlio vostro in qualche modo. John Carpenter, che io conosco bene come regista, non magari come regista, ma come musicista, perché lui e Alan Howard poi hanno fatto le musiche di Halloween, di Fuga da New York, eccetera, eccetera, che hanno utilizzato anche loro questa musica elettronica, questa infatti evocativa. John Carpenter l'ho incontrato, penso, è stato molto carino, mi ha invitato al concerto suo di Roma e ha scritto lui, perché io l'ho conosciuto a Los Angeles, e mi ha invitato al suo concerto. Io sono andato dopo dietro le quinte a salutarlo e gli ho detto: ma John, ma non fai più film? Lui mi ha detto: no, ormai sono troppo vecchio, non li voglio più. Quanti anni ha adesso John Carpenter? Ma non è tanto anche vecchio. Lui ha cambiato le regole del gioco, Stefano. Con Halloween si è reinventato il thriller, ha reinventato deve molto a Dario lui, nel senso che inventò la soggettiva dell'assassino, che è una cosa che prima non c'era, cioè una macchina presa si sposta, la gente guarda in macchina, che chiedeva praticamente allo spettatore di identificarsi nell'assassino, e questo glielo deve molto. Sì. Poi sicuramente ha avuto delle idee di drammaturgia, di scrittura, di ironia, che erano tutte sue, tutte di Carpenter, che secondo me, al di là dei vari Halloween sono venute fuori, non so, per esempio in Grosso Guaio a Chinatown. Che film, che è stata un po' la disfatta poi sua produttiva, ma è stato un flop. Era molto io non c'ero quando è uscito al cinema. Starman era bellissimo. Starman, che era candidato all'Oscar, Jeff Bridges. Ma anche Distretto 13, Le Brigate della Morte. Lì si è inventato i colpi in arrivo. I colpi in arrivo non c'erano mai stati al cinema, tutti quei fogli che svolazzano quando c'è la sventagliata del mitra, John Carpenter, Distretto 13, sono tutti cambiamenti epocali. È un fenomeno lui era un fenomeno. Però lui, siccome adesso, aveva troppo indipendenza, nel senso che voleva fare il suo cinema a Hollywood con i soldi degli studios, piano piano l'hanno estromesso. Eh sì, perché poi il Grosso Guaio ci andava fu quello ambizioso, ma non incassò quello che pensavano, e arrivederci, grazie anche la cosa. The Thing con le musiche di Morricone. Non andò bene. No, non andò bene. E da lì ha ricominciato a fare il piccolo cinema, però grande, come Essi Vivono, eccetera. Però prima, appunto, io dicevo a lui, ma nuovi film, lui detto, no, ma lui va a fare il musicista, fa concerti in giro. E così tocca quindi... fare i film a te, fa musica a lui. Cioè, sono tante cose. Però prima, scusate, volevo far sentire un momento di Claudio Di Biagio e sua nonna, l'abbiamo trovato. Sì. Che bello. Sentiamo, queste sono le ricette con nonna. Diciamo, è uno di non so quale abbiate preso, però come si titola, dimmi. L'ultimo video è se non sbaglio non, pasta... è non è vivente nell'ultimo non è vivente, no, sta bene. Sta benissimo. Pasta burro e parmigiano, la pasta dei cornuti, sì. Cosiddetta dei cornuti. Ok, dai cornuti dei cornuti. Anni, chi siete? Voi chi siete? Chi eravate prima? Lì sei quello. Concepire il cambiamento come qualcosa di positivo. Se cambi, cresci. Se cresci, e quando invecchi, diventi saggio. E cosa fai quando sei saggio? Fai le ricette e fai i padromagni. Donna Lea, entra perché ha fatto i padromagni. Era facile. Applauso! Pasta? Ah? Pure parmigiano. Anche detto la pasta dei cornuti. E la preposizione? Perché questo? Semplice. Perché la pasta a burro e parmigiano, un luogo? È un posto vicino a Matera. Cos'è burro e parmigiano? È un divagnarlo. Esattamente, questa è la burro e parmigiano. È una cosa semplicissima. Quindi non è pasta con il burro e parmigiano. No, burro e parmigiano. Burro e parmigiano. Io ho passato più o meno 20 minuti a cercare di capire perché dicesse pasta a burro e parmigiano, non con il burro e parmigiano, e lei non mi ha saputo dire perché. Ci sono queste cose che sono così e basta. Sono dogmi. Sì, è come l'ovatta su Bambin Gesù a Natale. Cioè, tu non puoi chiedere il perché ci si mette l'ovatta. È così, la metti e basta. Quello perché è. Ho usato quello strumento? È così. Esatto. Sono delle cose fisse. Io di reali ho amato tantissimo L'Uomo Sbagliato. Credo che sia ancora uno dei record di Mamma Rai come ascolti. Soprattutto è un film televisivo che è stato come film cinematografico messo in distribuzione negli Stati Uniti. Ah, per cui è uscito al cinema. E ci fu Tullio Kezzi, cioè, che tu prima citavi, che disse: com'è possibile che un piccolo film televisivo italiano esca nei cinema in America e qui nessuno sappia che esiste? Ed era, tra l'altro, Carpenter è del 48, quindi non c'ha neanche 70 anni. Sì, lo so, non è. Cui un film potrebbe però farlo, dai. Credo che lui abbia un problema di salute, me lo diceva Dario questo, cioè lui ha una malattia che tende a invecchiare prima del ogni Infatti anno. Si porta anche tu. Sì. Non è Benjamin Button. È il contrario. Sì, è da 70 anni si sta pure. Con tutto che l'ho trovato abbastanza bene. È come Barbagana, che santa miseria. Ma cosa suona lui? Tastiere? Lui suona il tastiere, sì. E c'è il figlio che suona con lui, che io conosco da quando aveva 15 anni. E quindi lui nasce come programmatore, sintetizzatori, cose. Forte il concerto suo. Però poi mi siete passati da John Carpenter. Io stavo sottolineando l'importanza di un piccolo grande film. Perché modestia volevo. No, urlo io perché lì tu ti sei inventato tantissimi attori, te li sei proprio inventati. Da Raul Bova a Beppe Fiorello, anche Sabrina Ferilli, insomma, hai sdoganato veramente tanta gente. Diciamo che ho dato una prima occasione a delle persone che comunque sarebbero diventate delle star. Non voglio dire che senza te non lo sarebbero diventate, però lo startup sicuramente, drammaturgicamente parlando, gliel'hai dato tu, perché tu sei lo sceneggiatore, il musicista e l'autore, dialoghista eccetera. Sì. Devo dire anche una cosa, che la decisione è profondamente cambiata, nel senso che quando ho cominciato a farla io, il regista era un tipo che gli dicevano: senti, tu sei un pittore, ecco il quadro è questo, dipingi. E io dipingevo, andava bene, andava male. Adesso dico: il quadro, sei tu il pittore, sì, e c'hai altre sei persone che ti prendono il braccio e ti dicono no, qua, no, i nomi, qua, prima di aspettare queste sei qui. Nomi, perché dopo quello dell'aiuto regista di D'Argento ci aspettiamo. E io gli ho detto, guardate che poi il quadro viene sbiadito, non, è che non viene né brutto, ma viene sbiadito se so troppe mani. Tu hai messo da parte dei soldi per poter dire tutto questo, sì. Diciamo no. Che ho delle proprietà piccole, ma che potrebbero consentirmi, rivendendole, di non andare proprio sotto i punti. Mettiamolo così. Allora... Poi, basta intestarla ad altri. Benissimo, ma non diamo delle dritte, questa è la radio Confindustria. Tra pochissimo voi sanatemi. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sono le 16:17 minuti e una manciatissima di secondi. Abbiamo veramente un piatto ricco di belle chiacchiere, però mi metti un tenebre dannata proprio, eh? Tenebre. Vai. Simonetti, ovviamente. Ecco. Paura. Questa è paura. In realtà io non dicevo proprio paura, facevo taura, taura. No, non stai bene. Fammi però, sentire un attimo. No, fammelo sentire. Zitto, adesso zitto. Dico paura dal vivo. No, è paura, dai. Paura. Scusami, perché hai rotto questa cosa? Di... No, è vero, però poi tu dicevi qui taura. No, era per creare questo equivoco tra paura. Non volevo dire. Ah, non volevi paura. Allora, taura. Poi il vocoder maschera molto le cose. Ma questo è bello perché poi lo ballavano in discoteca. E questo si sbaglia, perché tu hai fatto poi delle versioni dance. Quindi la voce è tua? La voce è tua passata nel vocoder? Sì, esatto. Senti, anche c'è una cosa che ti devo dire su Tenebre. Era il momento in cui io volevo fare... Giuliano Gemma era... Chi sì, era e Tony Franciosa. Tony Franciosa. Volevo fare l'assistente a regia in questo film. Ero appena uscito dal centro sperimentale, per cui tartassavo Argento, il quale non mi voleva neanche aprire... Non, 82, io, 81. 81 sì, mi pare, 82. 81. Lui abitava in Piazza Martiri di Belfiore, me lo ricordo ancora, e io non sapevo come fare. Certo, non poteva abitare in un'altra piazza pure questa. Pazzata miseria, Piazza Martiri del Belfiore. Vabbè. Non sapevo come fare per farmi ascolto, perché proprio non mi faceva entrare. Allora cercai di fare il concorrente a un quiz televisivo di Pippo Baudo, te lo giuro, su Rete 4, che si chiamava Un Milione al Secondo. E mi chiesero che materia scegli. Io dico il cinema di Dario Argento. Per cui andare a casa di Dario dicendo io sono, devo partecipare a una trasmissione come concorrenza su di te, per cui mi devi dire delle cose. E lui mi usò per farmi le commissioni, ma va in farmacia, mi accompagna Asia all'asilo, mi ricordo che accompagnavo Asia. La piccola all'asilo, perché stiamo parlando di quegli anni lì, e io approfittai di, poi feci anche il concorrente, non poi, però approfittai di questa cosa per allacciare un rapporto che altrimenti non ci avrei mai avuto. Ma dai, sì, e mi ricordo che c'erano ancora le videocassette Betamax. Sì, quelle grosse, proprio grosse, quelle... tre quarti. No, cioè, lui diceva, vabbè, che devi fare, mo, che devi vedere. Ma per esempio c'è quella parte finale di Quattro Mosche di un Velluto Grigio. Aspetta, mi metteva la cassetta, diceva, no, qui l'ho fatta, qui stavo con la macchina così, qui c'ho... Quindi io sapevo delle cose, con la scusa di dover fare questo concorrente, io in realtà ero lì per lui, certo. Non per far concorrente. Io ti amo. Come facevo io? Facevo finta di essere giornalista radiofonico, e andavo nei camerini di Gabriele Lavia, di Resalvo Randone. Tra l'altro il film poi non l'ho fatto. No, certo, l'ha capito. Tenebre era sì, però io pure non ho mai lavorato con Lavia né con Salvo Randone, però gli andavo a intervistare pur non facendo parte di nessuna radio. Almeno hai vinto come concorrente. Manco. No? Niente. Ah, ma invece, tu sei stato mai candidato all'Oscar, Simonetti? All'Oscar da bagno? No, a parte quello, guarda, devo dire una cosa che mi ha sempre rattristato molto, sia me che Dario, è che Dario, io lo vedo, io faccio concerti in tutto il mondo, grazie anche alle musiche e ai film. Ci sono grossi in tutto il mondo. Dario è riconosciuto come un grande regista, tutto assolutamente, quanto, che è, soprattutto per i capolavori che ha fatto. In Italia in realtà a noi non ci hanno mai dato grossi riconoscimenti. È una questo cosa succede molto, in questa nazione molto triste. Non lo vedi che Troisi quando è morto è stato fatto americano, nel senso è l'America che ha cavalcato. Sì, cioè se quel vinci momento... l'Oscar, come hai detto tu, diventi santo, allora ti fanno la standing ovation pure quando vai sull'autobus. Sì. E invece purtroppo c'è questa mancanza di come se fosse un genere di serie B, come la comicità, no? È sempre stato considerato, esatto, poi ti sdogana la vita è bella e diventi un grande attore, giustamente, eccetera. Mentre l'uomo alla mia destra nell'86 87, guarda, 87 è stato esattamente 30 anni fa, il 5 marzo dell'87. Cioè, oggi festeggiamo i 30 anni che non hai vinto l'Oscar. Esatto, sì. Cioè, voi dovete sapere, beh, io già lo conoscevo, Stefano Reali e Pino Quartullo. fecero questo corto, devo dire, bellissimo. Questo corto sul cinema, proprio. Sì, un corto di fantascienza. Di sì. Queste persone che del futuro si ritrovano dentro una sala cinematografica che non conoscevano. E parte questa pellicola di Charlie Chaplin, dove c'è la lacrima, il pianto, insomma, molto vicino al Cinema Paradiso, come emozione. Diciamo, il pitch oggi sarebbe questa parola che prima non esisteva, ora c'è, cioè, mi fai un pitch? Anche lo spoiler, no? Io pensavo fosse una macchina senza cappotta, invece esiste. Dice, gruppo di archeologi del 3000 trova un cinema e non sanno cosa sia. Esatto. Questo è. Come poi, mia figlia quando vede il giradischi più o meno, esatto. Dice che... E poi si emozionano, e poi si emozionano. Sì, vabbè, poi era carino. Era poi avuto, quando ho saputo che Stefano Reali insieme a Pino Quartullo erano candidati all'Oscar, sinceramente un po' sono andato in puzza. Nel senso che erano amici, no, ma lo dico in senso molto positivo e molto carino. Perché insomma era un sogno meraviglioso, cioè bellissimo. Beh, lì. No, loro hanno avuto la sfortuna, lo dico io, che quell'anno l'Academy commissionò i 50 anni dell'Oscar, se non mi ricordo più o meno che cos'era, a una società produttiva. Per no, cui... no, al nipote di Robert Wise, che ecco, era il presidente, insomma. Che dice, mi fai un cortometraggio di 5 minuti in cui ci metti i pezzi di Ben-Hur, esatto. Il duale del tramonto. Così ti diamo l'Oscar. E per cui, insomma, è stato apparecchiato. Perché vabbè, il film ma, è insomma, loro. Comunque, la cosa bella per noi è che... Che stavi a Los Angeles. Esatto, che non c'erano precedenti di questo, cioè era la prima volta che... Quello che diciamo accese un po' la fantasia è che alcuni, un paio di ragazzi con una pizza sotto braccio andarono lì al spese loro e qualcuno aprì la porta. Ecco, questo un po'. Beh, comunque già era una nomination. No? Sì, ma il film vinse una trentina di festival in tutto il mondo, per cui noi eravamo anche abbastanza, come dire, gasati. La cosa bella, mi ricordo che fetti un biglietto, me lo ricordo ancora, da New York a Los Angeles, che costava 50.000 lire ed era un Visit USA ticket, cioè una roba per immigrati. Dice, adesso non lo potevi fare. No, cioè, ma sarebbe stato complicato. Non avevamo la possibilità di tornare indietro. Era una cosa. Perché era un volo interno? Sì, perché era un volo interno di quelli che servono per i servizi di immigrazione così. E dice, come torniamo? Intanto andiamo, poi vedremo come torniamo, se vinciamo. E la cosa che a me ancora oggi mi commuove è che un grande guru dell'insegnamento della sceneggiatura, che in quel momento era nessuno, si chiama Robert McKee, e oggi è il più grande guru Story del di McKee, mondo. Credo sia il libro più bello di sceneggiatura. Esatto, lui ci ospitò con una brandira dentro casa sua a Hollywood, a me e a Pino Quartullo, per una settimana. No, non solo fece questo, bello. Ma i moduli di iscrizione per il nostro hard English li fece lui, andò lui a fare l'iscrizione. Robert McKee, come se ti dicessi oggi, sì, insomma, Robert De Niro, Aristotele mi è andato a fare le pratiche circoscrizione. La stessa cosa oggi è cioè gli allievi di McKee hanno visto 60 Oscar, dico per dire, i suoi allievi in questi ultimi tre. Allora era un signore che diceva, io insegno sceneggiatura. E perché non avete avuto più contatti? Non è ancora famosissimo e riconosciuto, come no, è diventato molto famoso quando fu addirittura messo in un film che si chiamava Il lato d'orchidee, dove hanno messo in scena Kaufman. È la storia di due sceneggiatori fatti tutti e due da Nicolas Cage, gemelli. Uno dei quali si deprime e allora, siccome è depresso, va a lezione dal grande Bob McKee. Esatto. E allora si vede questa lezione di McKee che insegnava tutta Hollywood, c'era Spielberg, c'era E era famoso perché si incassava, era tutta... E lui scelse l'attore, lui scelse l'attore con Kaufman. Che era Ronald Cox. Sì. Ronald Cox fece la parte di McKee. Vabbè, as himself. Non l'hai doppiato tu, però. No, non l'ho doppiato io. No, non l'ho doppiato, però non l'ho tu fatto io. Tanti di Oscar come doppiatore. No, non tanti. No, nel senso di film. Certo, sì, abbiamo avuto la fortuna Jamie Foxx con Ray. No, poi molti attori americani si sono congratulati con te in Italia per come gli hai reso, diciamo, bello il corpo. Sì, qualcuno sì, qualcuno diciamolo, sì. Diciamolo, dai, diciamolo. Qualcuno è carino e umile, cosa che non succede in questa nazione, ti succede d'oltreoceano, vabbè, ma è importante quello. Però sei stato seduto lì, t'hanno anche inquadrato quando hanno fatto un denomination. Sì, ma hanno pure inquadrato, mi ricordo che era... Che faccia hai fatto? Tu sei preparata, perché se vinci ok, ma se perdi devi far finta di niente. Noi sapevamo che non c'era la minima possibilità, però il fatto di stare lì con lo smoking e soprattutto il fatto di stare lì non perché c'era l'ANA con l'Academy o qualcuno in Italia, di stare lì soltanto se le forze tue, con uno smoking affittato un'ora prima che te stava largo, almeno a me mi stava largo, e di stare lì era una follia vera. Adesso è un po' diverso, perché adesso ci sono tanti di quei gruppi di pressione, per cui quando tu arrivi a una nomination, comunque c'è stata una serie di lobby che si sono mosse e che erano più forti delle lobby che si sono mosse per qualcun altro. Eh sì, lì c'è una lobby importante, perché for your consideration, cioè per arrivare poi ad essere nominato, c'è uno sforzo produttivo importantissimo, c'è una spesa adesso importante. Adesso ti seppelliscono di... anzi, adesso neanche più i DVD, ma fino a qualche anno fa, tutti quelli che volevano promuovere un film per l'Oscar, tutti i vari giurati venivano... anche perché sono quasi 4.000, certo, più o meno. Sono forse meno di 5.000. Perché sono aumentati, perché ogni anno poi aumentano. Sì. Per cui devi fare 5.000 copie della musica, 5.000 copie del film, 5.000 copie la promozione. Invece allora che non c'erano i DVD, si facevano le proiezioni. Dice allora, would you like to be present? Che costava l'ira di Dio. Una follia. Noi, la nostra fortuna, io me la ricordo molto bene, perché ci fu Rambaldi che venne a vedere questo cortometraggio che era lì, Exit, diciamo il titolo. E chiamò Spielberg dicendo hey you, e Spielberg ci portò in una proiezione alcuni suoi allievi della classe di sì, ho capito, ma io non me ne andavo più da lì, perdonami, a casa dello sceneggiatore Spielberg che fa vedere cose, io non me ne vado più da lì. C'è, tu invece sei andato a casa di Dario Argento e gli hai rotto le palle prima. No, questo succedeva prima. Ho capito che succedeva prima. Era Roberto Spielberg, un altro. Questo è come quella gag bellissima, c'è un film con De Niro, Robert, no, Joe De Niro, e poi la regia Scorsese, Martin, no, Billy, e poi ci insegno Pino, sì. Questo è così. Con questa stupidaggine andiamo in pubblicità. Ci torniamo fra pochissimo, poi sanatomi. Voice Anatomy. Tanti messaggi a Voice Anatomy oggi, visto me, insomma, un parterre di ospiti, devo dire, interessantissimo. Claudio Simonetti, Claudio Di Biagio, Stefano Reali, mitici Goblin, mitici film Dario Argento, Carpenter, le musiche, le scenografie di Bassan, troppo geniali. Grazie Pino per intervistarmi, grazie a voi per seguirci, applausi al grande Stefano Reali, seguivo Di Biagio, lo seguo ancora. Caro Simonetti, potresti ricordare qualche prezioso insegnamento tecnico che ti ha dato il grande maestro Enrico, papà? Mio padre t'ha menato? No, guarda, io sulle infatti dita. Molti sono convinti che io ho imparato da lui, sai come stanno dietro le quinte con lui. Io ho avuto questa grande fortuna di avere un padre come il mio, di essere nato, cresciuto e vissuto sempre dietro le quinte. Io, mio padre faceva Studio 1, faceva Commina, io conoscevo tutti, ero bambino, quindi certo, vedevo come si comportava, come suonava, andavo in studio quando lui registrava, quindi direttamente lui non ha mai avuto tempo, che mio padre, come tutti quelli dell'epoca, lo vedevi in televisione un giorno sì e un altro 50 no, e quindi ecco, lo vedevo in televisione, bravo. E però quando era andavo spesso al Teatro delle Vittorie, sono sempre rubato gli studi, le cose, quindi devo tutto a questa mia apprendere con gli occhi e come imparare il mestiere, rubarlo in qualche e modo. Soprattutto, ecco, quella è una cosa importante, di farlo sempre con una grande modestia e grande sempre grande ambizione, ma un grammo in più di umiltà non guasta mai. Io posso fare una domanda reale? C'è la possibilità di trovare il cortometraggio su YouTube? Perché come è una domanda da YouTube? Certo, si chiama Exit okay, con la X. Cioè, se io vado su YouTube e scrivo Exit, c'è Stefano un canale Reali, si chiama The Stefano Reali, okay, con l'essere internazionale. Stefano Reali, e c'è Exit. Ok, vado subito a vedere. Tra l'altro io ho chiesto da uno youtuber, capito? Come devo fare? Sei anche tu uno youtuber. No, ti dirò una cosa che forse farà farire, ma a me non mi farite per niente, ecco. Io ho ancora la copia in 35 mm piena di strappi e di cuciture, che è quella che è stata proiettata quando hanno fatto la nomination all'Oscar. Una copia di 30 anni, che da 30 anni non viene più. Non è il negativo di quello? No, che negativo, ma ma tu hai restaurare. Simonetti, tu hai diretto un cortometraggio con mia sorella Simona, sì. Abbiamo fatto con Coralina Tassoni, Cataldi Tassoni. Cioè, neanche con lui ho fatto l'attore, c'è cioè, degli amici che proprio non mi considerano. E Robert Madison. Ehi, che è un attore. Senti, comunque tu hai fatto una parte per merito mio. Tu non lo sai. Sì, non lo so, dalla vita in poi. Esatto, perché tu hai rifiutato. Ma ho chiesto di farmi l'attore. Dico, ma che sei scemo? Dice, no, tu sei perfetto, stronzo, carogna e fino alla mignotta con gli occhietti piccoli. Ah, dice, mi hai preso per questo? Dice, sì. Ma guarda, ti posso proponere una persona con pari caratteristiche. Ma stronzo, come? Stronzo? Carogna, un po' perfido, perfetto. Guarda, chiama Pino. Ma bravissimo. Ce la faccia da me la cotogna. Carogna, no. Carogna. Però forse la carogna con la faccia buona, l'assassino con la faccia da me la cotogna fa più paura, secondo me. Hai fatto una grande grande performance, no, vabbè, in quel vabbè, una grande performance. Io lo dico sempre, ho fatto 8 film che vanno in onda per i dimenticabili di Rete 4 quanto prima, per cui non è che sono indimenticabili. E per cui, però non ha vinto nessun premio questo corto, che è rimasto, voi siete proiettati a casa? No, no, no, no, l'abbiamo mandato un po' in giro, sì, come tutti i fatto pezzi, uscire, ci sei grande. Sì, sì, ma i corti servono a quello, sai? Ma sì, i corti guarda, servono ad avere la possibilità di fare dei lunghi. Esatto, io, come lui sta mandando in giro questo trailer, vero, questo vero, stop vero, motion. Sì, sì, come sì, si intitola sì. Che poi ho fatto io la vita? Ernest Egg. Ernest la vita Egg. Di Ernest Egg. Il diario. Il diario di Ernest Egg. Il mio diario. Esattamente. Che ho fatto il trailer. Fammelo risentire. Il diario di Ernest Egg. Il mio diario. Perfetto. Guarda, io ho fatto per molti anni, ho fatto da giudice nei processi per violenza. Nei festi internazionali, sono stato a Sitges, a Puccion in Corea. E mi in fare Corea? Da, come no? Cioè, a me mi chiamano, sì. Ma io vado, che ne so, qui vicino a Roma. Sono stato 15 giorni da solo in Corea una volta a fare il giudice. Mi dovevo sorbire 6-7 film al giorno. Andando in sala, immaginati in Corea, dormite che mi sono fatto dopo pranzo, cioè tu ti fanno mangiare e poi ti andavi a vedere il film, no? Eh certo, sì, sì. Ma quindi così fanno i veri so giurati, cosa vuol dire dover scegliere fra tanti film. Non è facile, mi chiamano un po' per te, che significato io. Ma comunque adesso anche il fatto di fare i curti, che fino a qualche anno fa era una patente obbligatoria per potersi promuovere, sì. Come regista è diventato anche un po' obsoleto, nel senso che è diventato, la tecnologia ti permette con così poco rapporto qualità-prezzo di fare un lungo, che se uno ha qualcosa da dire, tanto male che faccia direttamente. Se non c'è la distribuzione, però sembra difficile. Però tu mi insegni, non è facile fare un lungo. No, non è facile. In un corto puoi raccontare delle cose in 15 minuti. Ma anche 5, un'ora e 40 devi essere molto bravo. Devi sì. Sicuramente, devi, io dico, da un punto di vista produttivo non è puoi non affrontarlo, è quello dice Stefano adesso. Complicato. Poi se non c'è la storia, devi avere un maggior talento per reggere un'ora sì, e 40. Sì, però insomma, quello che si dice è che uno si può avventurare, insomma, adesso sì, sì. Con una cifra adesso con i cellulari lo fai quasi. Sì, sei sì, intelligente, riesci a farlo in tutti sì, i modi. Certo. Però sapete che siamo già all'era dopo, nel senso che fino a 5 anni fa questa era una soluzione, nel senso che addirittura con un cellulare tu potevi fare un film. Adesso siamo nel post era con il cellulare, cioè ritorniamo alla telecamera, ritorniamo, ce l'hai presa. Esatto, ritorniamo effettivamente a volere anche in internet una qualità che c'era più prima del cellulare. Ma è assurdo, perché? È assurdo questa cosa. È come il vinile, torna il vinile. Esatto, adesso tu puoi apprezzare la proiezione in HD, prima non sì. C'era, per cui non te ne fregava niente. Esatto. Adesso invece vuoi vedere la frontiera e puoi sentire bene sì, anche sì, sì, soprattutto. Infatti tanti videoclip adesso vengono fatti in pellicola. Addirittura torneremo lì. Sì, sì, sì. Torneremo. Ma si vede anche su YouTube che è differente. Questa è la cosa incredibile e stupenda. E poi la pellicola è diventata un formato economico, perché la Fuji, per esempio, ha degli stoccaggi che altrimenti lascerebbe inusati. Per e cui quindi, alla fine, quando stai sotto scadenza, tipo il formaggino, sì, preferisci regalarli a un euro piuttosto sì, che sì, li mangi tutti certo. Insieme. Via. Sì, che sì, però il problema è quando usi la pellicola, che mentre in una metropolitana ci vai con la telecamera. Con la pellicola ci devi andare col parco luci, con no, il no, ma, di fotografia, ma con comunque le emulsioni di oggi consentono di fare tutto e il trattamento dopo digitale di esatto, quello che ti hai aiuta. Girato ti aiuta sì, tantissimo. La digitalizzazione della pellicola ti aiuta molto. La vera stupidaggine è che noi ancora adesso abbiamo delle regole sindacali, per quanto legittime all'inizio, che ci impediscono di lavorare con meno persone di quelle che servirebbero che sarebbero servite 60 anni fa, quando servivano 18.000 kW per illuminare la scena. Abbiamo delle leggi che andavano bene per allora, ma che non si attagliano con le esigenze di ora, per cui però sì, c'è un problema di accessibilità e di insomma di permessi, questo è molto leggi gestibile. Valgono non per tutti, perché il cineamatore che si gira con l'amico suo, quello è un altro discorso, però lì è legale, fa successo, però perché non ha queste regole sindacali? Perché in realtà è illegale, cioè nel senso che io vengo da una situazione si molto... chiama Claudio Simonetti, quello che ha pronunciato una cosa illegale. Di Biagio gli ha fatto notare che potrebbe essere diciamo ci sono dei modi per aggirare, ci sono le commissioni, siamo per i patenti. Stato una radio privata questa. Ma che ce frega. Ma che problema non c'è? È della Confindustria? No, non è più di Confindustria, perché perfetto. Anch'io non faccio più parte di questa radio. Quindi siamo liberi. Grande Simonetti con il progetto degli Easy Going, era il tuo. No, sì, come no, la voglia. Hai capito? Sì, sì. Quello è dance, allora, vera. Nel 78, quando è finita tutta l'epoca bella, degli gaglietta. Anni della musica prog, degli anni facinorosi, degli anni 70, partì questa era finalmente bellissima. Io conservo un ricordo meraviglioso degli anni 80. Beh, io ho vinto più gare di ballo in quel periodo con la dance, che Dio solo sa, guarda. E quindi, lasciati i Goblin, incontrai il produttore Giancarlo Meo, con il quale decidemmo proviamo a fare la dance. Ma c'era Russell quello? No, Russell è venuto dopo. Dopo. E io ho un grande vantaggio, che sono nato in Brasile, ho vissuto in Brasile. È vero che tu sei nato in Brasile. Paulista vero. E Alessia Navarro l'aveva scritto, tu nasci a San Paolo. Io sono 52. Di madrelingua brasiliana, ho due passaporti perché attenzione, ho fatto... lavoro fuori scappare, legge e c'ha due passaporti. Perché posso scappare? Esatto, ma fermatelo. Vou voltar no Brasil. Io parlo brasileiro molto bene. Eh beh, perché ho fatto tutte le elementari in Brasile. E quindi le elementari in Brasile, Simonetti, è bellissimo. Puoi giocare con la nazionale brasiliana? Sì, pensa che sono l'unico ma brasiliano. Ma perché sei nato in Brasile? Papà stava perché lì. Perché mio padre andò con Luciano Salce e Adolfo Celi in tournée dopo guerra. Ho in capito, Brasile. Ma che sei figlio di Luciano Salce e Simonetti? No, dopo tu. Che andarono in Brasile, venivano da un paese disastrato come l'Italia, trovarono il paradiso terrestre e rimasero lì per molti anni. Salce ci rimase 4-5 anni. E lo stesso Celi, mio padre poi diventò famosissimo, aveva un suo show, Simonetti Show, in e rimase fino al 63. Perché e io, bello. Mia madre venne in Brasile e io sono nato là. Ma pensate, sì, hai capito? Ecco perché mi porto, faccio la dance e mi piace, perché ce l'ho nel ce l'hai nel sangue. Ma siete l'anziere arrampicato, sì, che sì, c'hai, sì. Che sei brasiliano. Sei beh, i Sigogni, beh, il mio, i Sigogni sono il mio più enorme, grande successo enorme. In assoluto si chiama Gioca Cioè. No, tu, come no? Ma è stato Cecchetto, no, aspetta, Simonetti Cecchetto. Ragazzi, trovate immediatamente Cecchetto era. Allora io conobbi Cecchetto, non lo sapevi Pino questo. Pazzesca questa sì, no, guarda, l'errore è il mio perché gli autori sono straordinari. Era scritto. Era scritto, ma io non ci pensavo a Gioca Giù. No, perché in realtà Cecchetto si è sempre, cioè, si è preso tutto il merito, però. Sì, ho capito, però i soldi. Però le edizioni sono due. Di lui, dici... perché io sono l'autore della musica. Posso dire che è una delle invenzioni musicali più belle, semplici, più sconvolgenti. No, il non, vero tormentone, sì, Gioca Cioè. Quanti villaggi turistici? Io ho una figlia di 6 anni, sì. E quando vanno alle feste e mettono c'è Gioca Cioè, lei dice: ah, me l'ha fatto mio padre, la prendono per matta. E tu dici: ma che stai a dire? È come se tu fossi il doppiatore di Peppa Pig, insomma, cioè nel senso un mascione, sei un eroe. Dall'horror, cioè io posso doppiato quello che ti pare, ma poi magari fai successo perché ha doppiato Masce Orso. Ma lì è stato tutto un caso, perché io conobbi Cecchetto, lui presentava Disco Ring, certo. E io andai con un artista là, e allora conobbi Cecchetto, abbiamo cominciato a frequentarci. Un giorno viene da me e mi disse: ah, io ho st'idea, facciamo così, io do dei comandi e poi sotto la gente balla e esegue questa cosa. Non so da dove l'ha visto. Eccoci qua. Ma posso chiedere una cosa? Come avete deciso l'ordine dei comandi? Cioè, allora questo lui, ecco, sentiamo lui... i primi comandi. Ta ta ta ta ta ta. Ma incredibile è stato, veramente incredibile. È incredibile. Signori, abbiamo l'autore di Gioca Cioè. No, io sono emozionatissimo. Grazie, Pino, di avermi invitato oggi. Perché avrebbe una cosa. Questo qua è stato bello perché poi io andai a casa e dissi: ma come ho fatto? La tarantella. Mi venne in mente la tarantella. Non ci posso. Siamo andati in studio, abbiamo registrato Gioca Cioè. Lui ha fatto questa cosa con i comandi. Ma però per me non era importante. No, no, per me la musica è quella. E sentiamolo, nuotare. Questo è ancora un team building ottimo. No, ma sì, sì, assolutamente sì. Tutti sì, però possono ballare il gioco. Sì. Spray, dopo sciare spray, che sequenza ci vuole. Ma guarda, che devo essere sincero, per me sarebbe più difficile oggi rifare una cosa del genere che non un film dell'horror, perché come i film comici, musicare un film comico è molto più difficile. È casino, che un, assolutamente. Sì, sì. E quindi nacque questa idea e l'abbiamo registrata. Però la botta di sedere, di culo, come si dice, sì. Culo, si può dire, questa sì, persona, a quest'ora ancora, si può dire. Abbiamo superato le 4. Esatto, però si può dire ancora. È che Cecchetto fu chiamato a presentare Sanremo. Ah, e per cui... nell'80 e quindi lui che ha fatto ci piazza come sigla di Sanremo, no. Se ballerini a Genova che ballavano tutti per Gioca strada Cioè. Cioè, un milione di dischi in due mesi di 45 giri e poi è diventato quello che è. Ma quindi è rimasto comunque un singolo, non è che poi avete fatto un CD? No, un singolo e basta. Che vuoi fare? Che ne so, una trincera. Volevamo fare un matrimoniale, ma matrimoniale, ma non... No, il singolo è matrimoniale. Oh mio Dio, non lo so. No, è incredibile. La cosa bella, secondo me, significativa di Claudio è che è stato, come artista, in grado di rinnovarsi almeno tre volte nella sua vita e ogni volta di reinventare un mondo. Grazie anche a tutti i riconoscimenti che ho avuto, no? Come dicevo prima. Beh, esatto, no? Gli Oscar. Vabbè, però hai avuto il pubblico. No, là, il pubblico è tuo. Quello che pubblico è tuo. La possibilità io di faccio pagare... concerti, devo dire, in tutto il mondo, in Giappone, no? Ci vado, esatto, no? Non è che... Australia, e vedo un sacco di gente, ragazzi, giovani. E poi soprattutto... questo già mi dà... Ma scherzi, questo è come Franco Nero, quando parlo con Franco, no, questo quando... ha fatto tutto. Quando dico tutto pubblico... il mondo, esatto. È qui, non se lo ricordano mai. Io voglio dire soprattutto i diritti d'autore, perché consentono a un musicista, un artista, di poter continuare ad essere libero di poter fare le cose che crede. E questa è una cosa buona italiana, e la si ha, che devo questo, dire. Cioè... Ma l'avete mai tradotto poi il gioco a giù in sì, beh, è uscito tutto difficilmente si scorda, fatta in tutto il mondo, sì sì, poi c'è l'avete fatto davvero? Dopo ne ha fatte tante altre versioni per conto suo, poi però no, un tormentone pazzesco, che scoperta, bellissimo, non si finisce mai di stupire, che poi l'idea era la mia, ma questo ne parleremo dopo. Andiamo in pubblicità per l'ultimo blocco insieme e poi chiamiamo Capuano per sapere che cosa è successo nel mondo del calcio. Qui mi arrivano messaggi, vergognoso rigore dall'Inter, ma che c'entra con me? Grande Simonetti con il progetto Disco, gli dice Carupino, potresti rivolgermi un'intervista al mio libro sul doppiaggio? Guarda, c'è il nostro sito che è proprio Voice Anatomy, lì c'è anche il nostro Mauro Meconi, che il Facebook Voice Anatomy, dove il bravo Meconi risponde sempre a tutti. Per che cui... poi Meconi è una contrazione di una cosa romanesca. Una cosa brutta. Che però... Va bene, andiamo a... Me complimento. Molto romantico. Tra poco, Voice Anatomy. Faircam Logistics, gli specialisti per la tua supply chain. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta... Voice Anatomy. Bentornati signori, eccoci qua all'ultimo blocco insieme a questi straordinari ospiti, Claudio Simonetti, Claudio Di Biagio e Stefano Reali. Veramente c'è tanto da dire e tanto da fare ancora, perché soprattutto il Di Biagio. Il gioco a giù, cioè, siamo scioccati. Siamo scioccati dal fatto che Simonetti, veramente, come dice Stefano Reali, si è reinventato, rinnovandosi e avendo grande successo. Ogni declinato volta. Come poi Sanatomi e la voce declinata in tutte le direzioni, tutte si è declinato veramente a 300, a 390 gradi. No, nel periodo dance mi sono divertito molto con Easy Going, BB&B, Capricorn. A questo punto scopriremo che You Are the Fest, The Last of My Everything, Barry White, Eddie Tate, cioè Zop, The Sound of Philadelphia, The Sound of Philadelphia, ragazzi, questa roba, senza quella roba lì. Pensa a Giorgio Moroder, allora, che è stato sempre il nostro, che poi è italiano, maestro. Giorgio Moroder, sì, no? Lui è del nord Trentino, è del Trentino, sì. Anche se ormai parlo così. Beh certo, quello del nuovo, anch'io dovrei usare questo espediente. Cominciare a parlare. Sì, ma dovrei chiamare Joey Teach, come dico sempre. Come dite voi italiani. Esatto, che non lo parlo neanche però, così bene. Lui ha avuto una grande fortuna e intuizione di andare via dall'Italia. Eh sì, come Bill Conti, no? Andò in America, andò in Germania, dove fece I Feel Love, incontrò Donna Summer. E poi tutto il resto, America, insomma. Così, lo stesso vale per Vangelis, che lasciò la Grecia e tutti. Insomma. Sì, Bill Conti, ricordiamo pure, come insomma, no, che Bill è scappato Conti da qui, Bill Conti italiano. Lavorava, faceva il piano bar a Via Veneto, Bill Conti. Hai capito? Cioè, sì, e poi ha fatto qua Robetta Jazz. Insomma, io pensavo fosse nato negli Stati Uniti. No, no, lui è italiano. No, no, italianissimo. È andato via. Sì, sì. Ma capito, bisogna fare me lo ando anch'io. Infatti, cioè, tu c'hai 28 anni, lo puoi fare, noi no. Io posso posso dire una cosa? No, Trump non te lo permette. Non me lo permette. No, io non vedo l'ora invece di fare successo qui in Italia. Ma anch'io, guarda, io sto in fissa totale. Io pure non vedo l'ora. Vero? Per cui il progetto Capuano l'avete chiamato, sì? Ok. Dico, per cui il progetto è il diario di... Di Ernesteg, ho anche altri progetti, sto portando avanti altre cose. Diciamo che avendo lasciato YouTube, adesso mi sto mettendo a scrivere, esatto, a tirare fuori delle cose. Speriamo che i prossimi anni siano, no? Conto su di te, non fare solamente cartoni animati, se utilizzi soltanto la voce. Io ho un corpo che... Anche, ho una particina in un mio progetto, di uno che muore dopo... No, ma già gli devo dare l'esclusiva ai Reali. Ah, ok, perfetto. C'ho Reali, c'ho Ultimo 4, ma lui non li fa, i seguiti non li fa. Non li fa, no? Sei contro i seguiti. Lui lancia. Veramente io li farei se mi chiamassero, perché spesso cercano di farmi fuori dai seguiti, perché cioè ti fanno fare l'uno e poi mi dicono che voglio fare come mi pare a me. Io gli dico, ma scusate, ma se sta roba ha vinto, ma continuiamo quasi, no, per scaramanzia, magari ci siamo inciampati. Ma e invece tu, Simonetti, che ti stai inventando adesso? Ma niente, questa io... guarda giovinezza, per cui devi inventare una cosa. No, devo dire, adesso ho fatto un film molto bello con Ruggero Deodato, un altro grande, storico. Esatto, un film che si chiama Ballad in Blood, che parla tanto del, per cambiare c'è sangue. Parla dell'omicidio di Amanda Knox, insomma, ispirato su quel un bel noir, molto bello. E ma poi ispirato niente, proprio ispirato, sì, okay. Però che ancora non si sa come va a finire qua storia. Ancora così, un po' più enfatizzato, insomma, diciamo. Okay. Ruggero è un grande regista, veramente. Chiedi a me che sto facendo? E tu cosa stai facendo? Stiamo parlando con Reali per la prossima fiction. Ah, che bello. Che lui produrrà e io scriverò e dirigerò. Esatto. Io non ci sarò come attore. Benissimo, certo, grazie. Vabbè, lascia stare. Ci sarai sì. Sei il produttore. E certo, allora faccio da solo, mi metto chi dico io. Ma c'è Capuano dall'altra parte. Oh, Capuano. Hai visto chi c'ho qui oggi? Chi c'hai? Come chi c'ho? Ma non hai sentito la trasmissione? Cioè, no, io un'altra radio. Purtroppo Claudio, no. Claudio Simonetti, autore di Gioca Giuè, no, di Profondo Rosso, di no. Gioca Giuè. Questo è come mio amico che è coreografo di tante cose, ma lui è coreografo di Colpo Grosso. Perché, ma dai, per cui no, io quando lo grande. Presento dico, esatto, ha fatto Arbore, ha fatto Fantastica, ha fatto sì, ma lui è coreografo di Colpo Grosso. La gente, dai! Lui dice, esatto, cin cin. Claudio Di Biagio, grande ex YouTuber. Non so di cosa parlate. No, bene. Tu lo sai perfettamente e sei anche un po' cieco per questo. E Stefano Reali, regista delle più importanti fiction televisive, sceneggiati televisivi e non solo, ha fatto anche il cinema. Capuano, tu sei niente rispetto a questi tre qui. Ma io, cioè, non c'è problema, io sono un umile cronista di quello che succede la domenica pomeriggio. Poi ti riporto che, esatto, che cosa è successo, ma Capuano? Insomma, c'è soltanto una partita che si sta ancora giocando, siamo nei minuti di recupero ed è Udinese-Juventus e potrebbe maturare il primo pareggio in campionato della Juventus, che ma fin qui aveva solo o vinto o perso, invece sta facendo 1-1 a Udine. Era andata sotto con Zapata, pareggiato con Bonucci, partita non bellissima quella della Juve, che poteva chiudere tutto, che non finisce invece... finché non fanno il golden goal, com'è la storia? No, siamo nel terzo minuto di recupero, ne hanno dati 4, c'è ancora qualcosina da giocare, ma è stata in realtà l'Udinese ad andare più vicino al 2-1. Pensate, un bel campionato stanno, o è piccolo sto campionato o è divertente, non lo so. Poi che è successo? Poi gli altri finali sono tutti finali, invece l'Inter ha vinto 5-1 a Cagliari con doppietta di Perisic, gol di Banega, gol di Cardi e poi il primo gol di Gagliardini con la maglia dell'Inter. Ah, meno male, ha sbloccato. È stato anche il primo rigore dell'Inter con Pioli in panchina, era qualche settimana che lo chiamava ed è arrivato. C'era, lo diciamo subito, così vi mettete tranquilli. No, in attesa di Bologna-Lazio di questa sera. Ah, è vero, io e te non ci incontriamo più quando Lazio deve giocare. Vabbè, però va bene così, porta fortuna. È quella vai. Che ci vediamo, ce la vediamo insieme, no? Che sì. Vengo anche stasera da te a vedere. Certo, il biografo. E poi che è successo? Crotone-Sassuolo 0-0, Empoli-Genoa 0-2, tutto dal 90esimo in poi. Inciame-Igliemark 3-1 del Toro sul Palermo, vinceva 1-0 il Palermo. Mamma. Ha fatto 3 gol Belotti in 10 minuti. Belotti a quota 22 gol in 24 presenze, è stracapocannoniere. Nel senso che i secondi in classifica, Gekko e Higuain, sono a quota 19. È finita la Juventus in questo momento. 1-1. Vedi, a Roma adesso si può mangiare le unghie dei piedi, visto questo risultato. Ma posso dire una cosa che ho sempre voluto dire? Una Dimmi. Domenica rocambolesca, l'ho detto così, era una cosa che volevo dire in radio da tempo. Dentro, è una cosa antica. Però mi piaceva, mi sono vintage. Sono vintage, quindi le cose voglio dire. Quindi sì. Va bene, scusa, sto morendo. Caro Capuano, ti ringrazio. Alla prossima, buona Ciao. Trasmissione, amico Ciao, mio. Grazie. E a tutti i convocati che andremo da fra pochissimo, dobbiamo abbandonare la linea. Io ringrazio veramente di cuore, come si dice, il bravo presentatore, il bravo accompagnatore, perché mi definisco tale. Con ospiti così non è difficile riuscire a creare una sinergia in un tavolo semirotondo e portare a casa magari qualche concetto, anche se ne è arrivato 1,5, signori, però è arrivato che Gioca Giuè, chi l'ha fatta, esatto, è al mio fianco, e adesso non conta più niente. Incredibile, tutto incredibile. Simonetti, non che poi Claudio, c'è Chetto, Claudio Simonetti. Mamma mia, quante pure. Sinergie. Quante rifacciamola, l'ha scritto sul disco, non è. È incredibile. Rifacciamola, con la regia di Reali. Incredibile. Interpretato, prodotto da Piero Insigne. L'entusiasmo di Claudio Di Biagio, la bassa delle organizzazioni, sono troppo entusiasta. Signori, grazie a tutti, grazie a Mauro Begoni, grazie Alessia Navarro, grazie Valerio, bentornato, Rachele come sempre, grazie a Milano per la messa in onda, buona trasmissione a tutti i convocati che seguirà e noi ci sentiamo domenica prossima, Voice Anatomy, Radio 24, 14:30. Grazie di volerci così bene, ciao. Grazie. Ciao.